Buonasera a tutti, stiamo ufficialmente iniziando. Quanta gente, che bello. Sarà perché è venerdì, sarà perché non c'è Valerio. Tant'è che forse la serata dove stiamo facendo la maggior affluenza di pubblico, probabilmente a metà delle persone qua presenti il lato destro non gliene fotto un cazzo. Ma tant'è che siamo in tantissimi. Chi deve entrare entri, chi deve uscire esca, chi si deve accomodare si accomodi. Vedo due ragazzi là in fondo. Ragazzi, come va? Perfetto, bene. L'ho già detto, l'ho già ribadito, non c'è Valerio. Adesso farò un po' di chiacchiericcio casuale, tanto per far sedere tutti, per far sì che ci sia un minimo di silenzio. Orco cane, non vedo più niente. Ma stasera avrò il piacere, prima ho fatto una richiesta se c'era qualche collega che voleva presentare con me, ha risposto un coraggioso che tra l'altro sta mangiando, quindi o aspetto che finisca di mangiare per chiamarlo sul palco a presentare con me, o presento io o me ne batto il cazzo e lo chiamo sul palco adesso. Ha un nome d'arte meraviglioso, non so il nome e cognome, ma lo chiamerò sul palco con il suo nome d'arte. Signori e signori, un grande applauso per Nemo. È la prima volta che lo vedo, non so, può essere un matto, qui non lo conosco, quindi... C'ho anche il microfono degli sfigati io. Hai ragione, vuoi fare cambio? No, sto bene così. Conosciamoci sul palco, Nemo, io e te ci siamo visti stasera per la prima volta, come ti chiami? Nemo, come... Nemo di battesimo proprio? No, Nemo Barbieri. Nemo battesimo... No, praticamente... no, non è vero, non mi chiamo Nemo sul serio, è un soprannome che ho da quando ho 13 anni tipo. Quindi ben prima del film di tutto quanto o no? Ben prima del... no, ben prima no. Non è vero, più tardi del... Più tardi. Più tardi, è venuto prima il pesce di me. Cazzo, però... era bello se tu potevi fare causa a loro per... No, è venuto, invece... è bruttissima detta così, però è terribile. Qui ragazzi buonasera, ci sono... Intanto, stiamo già facendo i doppi sensi, signori, se voi fate casino ve li state perdendo. Abbiamo iniziato da 40 secondi, dai così! Vi state perdendo già i doppi sensi, quindi vi chiedo non di fare silenzio per noi, ma per voi, perché vi perdete vi delle perdete grandi robe. Questo grande... Questa grande cosa. Io sono entrato. Io non dovevo esibirmi stasera. Sono entrato per mangiare, si vede? Ho ordinato un tagliere, un toast, una birra. Solo che ci hanno messo mezz'ora a fartelo e quindi sei capitato sul palco. E questo qui è il tuo problema. Senti, vuoi fare un pezzo? Dai, vuoi presentare? Bah. Però posso dire, a discolpa mia, che quando ho detto serve un presentatore, un paio di comici qua presenti hanno detto vai da Nemo che è molto bravo a presentare. Paraculi di merda. Ora verrò a cercarvi uno per uno, bastardi. Alzino la mano questi coraggiosi che hanno detto Nemo è molto bravo a presentare. Uno è lì. Non hanno detto Nemo è bravo a presentare. Hanno detto vai da quello coi capelli rossi, vai da lui, rompi il cazzo a lui. Ha detto Rosa addirittura. Merda, ha detto Rosa. Esatto, è vero, ha detto Rosa. Cioè quindi proprio te l'ha messa in quel, allora, no, per l'ha messa di in quel mano, posto chi, per, ma si sente? No, non capisco se questo microfono... Lo sentite Nemo? Sì. Vi sta piacendo? Ho sentito dei no anche, Nemo. Ah, ciao. Boh, scusa, è molto simile a no, boh. No, no, non andare via. Boh ha detto. Introduci... Ah, per alzata di mano, quanti pensano che io abbia i capelli rossi? Aspetta che okay. Li contiamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Giù le mani. Una decina quasi. Ok, alzino le mani i daltonici, che sono gli altri, perfetto. Io sono daltonico. Tu sei daltonico? Leggermente. Veramente? Leggermente, quindi sì. Tipo il rosso lo vedi? Sì, ma mi mandano in confusione i marroni verdi, i blu neri, quelle robe lì, i grigi azzurri, quelle robe a lì. A me i bianco neri. Bon, ciao, la io prima sul calcio è andata. Io sono via. Juventino, è uno di quelli anche che, tu si sei che si incazza molto, tra l'altro. E io sono Granata. Vabbè, io rispetto. No? Io no. Perfetto. Dai, vabbè, dai, non è bello. Ma sei di Torino? Di Torino, sì. Ah, cazzo, che bello. Che bel momento questo. Che bel momento calcistico. Tu cazzo. Pure sei di Torino? No, io sono di Mantova e tifo Juve perché la il ma Mantova... che cazzo vuol dire? Ma che cazzo vuoi? Mantova è in Serie C, cosa tifo? Mantova, sempre tifato Juve. Vabbè. Va bene, adesso parte questa litigando. Digressione allora, calcistica. Allora, intanto, secondo me, prima di cominciare ma facciamo... lei è l'altra che ha detto che lui era molto bravo a presentare, che non si è presa la responsabilità. Chi l'ha detto? Tu l'hai detto. Sì, lei sono è la seconda. Allora il colore dei capelli? No, lei. Ah, lei? Magari una roba nostra legata... Non ho capito. Su me è legata al cazzo, è legata. Solo gli uomini sono daltonici. Sì? È che voi avete, cioè già, che i vostri avete già i vostri problemi. Sembra voi, un quindi... po' una di quelle frasi, gli uomini sono tutti uguali. È un, cioè. È un po' sessista questa solo cosa, eh. Tutti, vero? Se noi avessimo tirato fuori una patologia che avete solo voi, apriti cielo. Ma ce ne sono tante, ma non le dico. Ma me le tengo per dopo. Ti ha detto tirala fuori, eh? Tirala esattamente. Introduco leggermente, brevemente questa serata, il senso di tutto questo. Perché? Non c'è. Esatto, perché? Perché noi siamo qua? Cito una battuta dell'amico Valerio Ross. Se volete andare a una serata di stand-up per ridere, andate al Joy, andate al Che Pensi Mi. Se venite qua è perché vi piace il disagio, perché questa serata noi l'abbiamo fatta, l'abbiamo chiamata Brutte Persone, perché non, come dire, prendiamo tutti, cioè anche quelli che passano per strada e dicono mi fai fare un pezzo, assolutamente sì, gente mai vista, tant'è che presenta lui, che l'ho conosciuto 10 minuti fa, quindi capite bene qual è il tenore di questa serata. Ma a fine serata, se resisterete, vi renderete conto che il mondo è un posto vario e meraviglioso e dovremmo imparare ad accettarlo e ci ameremmo tutti di più. Tipo quando vai allo zoo. Esatto, guarda, il concetto è simile. Che vedi gli animali, dici, non ci sono le gabbie, ma potete mangiare. Perfetto. Però più o meno come lo zoo. Intanto hai creato un'aspettativa, la gente ora... No, ho fatto la premessa che qua c'è il disagio. Quindi... Figa, non vede l'ora di vederlo. Però sono ancora tutti seduti. E mi stranisce questa cosa che è la serata di maggior affluenza, davvero. Forse è venerdì, ripeto, forse è Valerio. Forse Valerio non deve più ma venire. Ma non c'è Valerio, e questa è la cosa bella. A allora, qualcuno possiamo... sta mancando Valerio Erò? Ma soprattutto qualcuno sa chi è Valerio Erò? Ah, per alzata di mano, quanti sanno chi è Valerio Erò? Che bello! Per sapere se posso raccontare una... Allora, Valerio Erò. Ma aspetta, ma io visto che ti ho chiesto prima, ti va di aprire? Io magari, se vuoi, me ne vado fuori dal cazzo e tu questo aneddoto te lo racconti da solo. Se no dimmi, no, stai qua, vedi tu. Vai fuori dal cazzo, dai. Signore e signori, un grande cazzo di applauso all'eroe che non solo presenta, ma apre pure il Cristiano Ronaldo. Faccio tutto io, vai. Mi piace questo cambio, come se non ci fossi mai stato. Bello, dai. Vabbè, ciao, fatevi sentire. Dai, così, contenti di essere qua. Facciamo una prova, così. Lo faccio sempre per iniziare gli spettacoli, perché mi diverte. Lo faccio da un sacco di tempo. Soprattutto perché la prima volta che l'ho fatta questa cosa non è andata bene. Ma adesso adesso lo faccio, voi capite, rispondete come fanno le persone normali e andiamo avanti con la serata. E-o! Ari, ari, ari, o! Iririri. Scurlibu, scurlibu, scurliburli burlibu. C'è sempre un po' di difficoltà qua su scurlibu. No, faccio sempre questa cagata. Primo perché mi piace tantissimo, ma perché la prima volta che l'ho fatto, non sto scherzando, ero in Basilicata. Ho fatto eo, ma c'erano 1500 persone, una roba enorme. La prima volta, tu dici, coglione, prova davanti a 20 stronzi, vedi cosa succede. No, 1500 persone, faccio eo, come adesso, silenzio totale. Si alza solo un signore in prima fila che fa eo, che cazzo vuoi? Io mi sembra un po' esagerato. Sembra Freddie Mercury, queste cose. E vabbè, ma io mica soffroscio. Allora, quando ti dicono così, c'è una risposta che mi piace dare sempre, guardarlo fisso negli occhi con la cattiveria e dirgli: peccato, se non pensiero ce lo facevo. Tu lo vedi che cambia proprio faccia, e fa tipo due passini indietro, dice non ho capito. Vabbè, questo non c'entra un cazzo col pezzo, è solo per far vedere che ci siamo. Facciamo un applauso. Allora aspetta, facciamo quelle robe. Tu non sai neanche come mi chiamo io. Andrea Fadenti. Ma chi pensi, sono l'ultimo dei coglioni? Cioè, non ho capito, io vengo alle serate, guarda, in realtà è tutto studiato, io sono venuto qua apposta perché sapevo che poi Valerio non c'era, mi ha detto vai, che non è vero un cazzo, non l'ho mai visto prima di me. D'ora, cosa stavo dicendo? Vabbè, gli applausi, adesso sì, vabbè, prima, cioè minchia, devi fare il pezzo, mi ha detto, non ho capito. Porca troia, non dovevo neanche esserci, cioè ringrazio che sono salito, ma non ho capito. Ma pensa a te. Allora, comunque, allora facciamo le prove di applausi. Come fanno nei grandi... Qua, io sono qua, se mi vuoi insultare sono qua, eh. Dai. No, nelle grandi serate di comicità si fa sempre la prova degli applausi, no? L'applausometro, dice... tentiamo. No, dice, il primo applauso è per una battuta che ha fatto poco ridere. Com'è? Un applauso per una battuta che ha fatto poco ridere. Esatto, esatto. È approvata la mozione delle grondaie, la riunione di condominio, questa. Il secondo applauso è per una battuta che vi ha fatto un po' più ridere. Dai, siete contenti che hanno approvato la mozione per le grondaie? Questo è il secondo applauso. E il terzo applauso invece per ogni battuta che sentirete stasera. Fatevi sentire. Tra l'altro, così hai creato un mostro, perché da ora in poi i comici sentiranno che tipo di applauso è e capiranno che tipo di battuta di merda hanno fatto. Ho creato un mostro, minchia, fosse sta roba tutte le volte. Quello prova il pezzo, dice la battuta, applauso piccolo, questa poi la togliamo. Applauso forte, questa la tengo, minchia, fosse così tutte le volte. Vabbè, faccio il pezzo perché magari ho già... No, no, ma io, a me piace questo dialogo dove col pubblico parliamo, è bello, è bello, è bello. Qua rompiamo gli schemi. Facciamo un piccolo sondaggio. Per alzata di mano, tipo il dodicesimo di stasera. Per alzata di mano... Tu sei un po' in fase Pagnoncelli. Bravissimo. Quanti hanno paura di volare? Paura di volare, terrore proprio. 4, 5, 6. Sempre pochi, non so... Quanti conoscono almeno una persona che ha paura di volare? Tutti, incredibile. Quelli che hanno paura di volare non vengono mai, mandano gli amici. Vabbè. Da piacere. Io, se non si fosse capito, ho terrore di volare. Tu no? Tantissimo, sì, pure tu. Ecco, la cosa che mi sta sul ca... Come ti chiami? Martina. Martina, dimmi se non è vero. Dimmi se la paura di volare non è l'unica che ti obbligano ad affrontare. Cioè... A parte, non per, solo per andare nei posti che, per forza, cioè, ci sono dei posti che puoi andare solo in aereo oppure in zattera, però è lunga. Però la gente, quando dici che hai paura di volare, ti dice, vabbè dai, prendi l'aereo, cosa vuoi che sia, vero? Con le altre paure non lo fa nessuno. Cioè non è che se uno ha paura dei clown, dai, due biglietti per il circo, andare fuori dai coglioni. Ah, paura del buio, pam, clac, e adesso, dai, paura del sangue? Pff, merda! Soffi, adesso so... No, solo io devo prendere l'aereo per forza. E poi, no veramente, la cosa che mi sta sui coglioni è che sia nel bene che nel male ti dicono delle frasi che sono sempre fuori luogo. Tipo, ma visto che hai paura di volare, lo vuoi il posto vicino al finestrino? Così magari guardi fuori. Ma certo. Ma non vedo l'ora di guardare fuori dal finestrino e vedere che l'ospedale più vicino è un puntino della settimana enigmistica. Non vedo l'ora. Oppure ti dicono quelle frasi tipo, vabbè, dai, di aerei ne cadono uno su un milione. La mia risposta è, ricordati che c'è sempre uno stronzo che vince la lotteria. Sempre. Oppure ti dicono, cos'è che ti dicono? Ah sì, questa è una di quelle che mi fa più... L'aereo è il mezzo di trasporto più sicuro al mondo. È una cazzata. Io ho fatto una ricerca, non sto scherzando, l'ho fatta veramente. L'aereo è il quarto mezzo di trasporto più sicuro al mondo. Oh, tre prima sono tanti. Cioè, al terzo posto c'è il triciclo. Con 12 incidenti all'anno. Che per essere un triciclo sono tanti, tanto, 12, cazzo. Minchia. Considerando che non è che lo guidano tutti, voglio dire. Al secondo posto c'è il montascale, che è quello per far salire le persone. Per le, secondo posto, con 4 incidenti all'anno. Ma signori. Ma incidenti mortali. Incidenti mortali, te lo giuro. Veramente. Quindi ci sono 12 bare bianche all'anno. Diciamo che sono 6 bare normali, perché le tagliano a metà. Vabbè. Ah, bruttissimo. Terribile, terribile. Come se non l'avessi mai detto. Terribile. Dai, dai. Sono un mostro. Al primo posto, il mezzo più sicuro al mondo, classifica detta vera, dati alla mano, è la ciclette. Ci sta, ha una sua logica. 0 incidenti mortali all'anno. Porca troia. Sì, però tu non è che puoi questionare su ogni cosa che una persona di... Tecnicamente hai ragione tu, non si muove, quindi non è un mezzo di trasporto. Ma poi però sei pignola. Cioè, non so come dirtelo. È una... Era la sua chiusa, era bella. Tutti, cioè, ridevano, nessuno aveva messo in dubbio. Ma poi era una battuta, nel senso... dice noi. Questo è un palco, lui è un comico. Cioè, non sono veramente contento che sono morti i bambini. Cioè, non. Più, è più per una cosa mia personale, non per. Poi era una bella battuta sulla cyclette. E adesso risalire sarà dura. La cyclette. E via. Vabbè, andiamo avanti. No, l'altra invece frase che dicono tutti e che è quella che in assoluto mi dà più fastidio, ma proprio in maniera atroce, è: ma guarda che loro sono piloti professionisti, sono esperti di volo. No, sono gente che ha imparato a usare un joystick e una tastiera molto grande e guida un siluro a 200.000 metri di... Quanti sono? 5.000? Ma nessuno lo sa, io darei i numeri così. 5, 6, 7, 8 metri. Così. Sì. Raso terra, vabbè. Quelli che sono, non sono... Cioè, è gente che sa usare bene la PlayStation. Cioè, una roba... Le anatre sono esperti di volo. Siamo d'accordo? Sono nati per quello tutta la vita. Volano, grazie. Intanto ho portato mio cugino ogni tanto... partire un applauso e va, cioè le anatre sono esperti di volo, loro sono, però ti dicono, loro hanno dovuto passare due esami, cioè uno orale, cioè un teorico e uno pratico, ma non mi fa stare meglio però, perché io ho fatto l'università, poca, però un altro discorso. E se preparano gli esami come io preparavo gli esami, non è tanto bello, perché vuol dire che questo qua, per fare l'esame da pilota, ha aperto il libro e fa questo lo salto tanto non me lo chiede, questo l'ha chiesto l'altra volta tanto non me lo chiede, il carrello di atterraggio troppo facile, figurati se me lo chiede. E finisce che va all'esame e gli chiede il portellone. Quello lo sa, perché il portellone... Sei entrato? Quindi. Sei entrato, chiudi, al massimo... Non so che cazzo devi fare col portellone, però è facile. E l'esaminatore dice, minchia, sapeva addirittura il portellone. Che nel libro è una righina al fondo di un capitolo. Vuol dire che sapeva tutto e lo promuove. E la teoria è andata, però dice, però c'è l'esame pratico, no? Su quello non si transige. Però mettiamo che nel suo esame pratico il volo vada tutto bene, no? Non ci sono intoppi, come per fortuna il 90% dei voli, no? Forse di più. E mettiamo che anche i 10-12 voli successivi lui vola tranquillo, va, decollo, atterraggio, tutto bene, e non succede niente. Poi si mette alla guida dell'aereo su cui sono io. E mentre stiamo andando a 7-8 metri, come abbiamo detto prima, lui è lì che guida l'aereo, e a un certo punto in tutto quel display di tastini, lucine e cose, si accende una lucina. Blip, blip, una spia rossa, no? Blip. E vedete, lui che fa, tutto contento, che guida e poi fa. E la lucina, blip, blip. Fabrizio, perché ovviamente di fianco a lui c'è il copilota, e quindi direte voi, vabbè, se il pilota è un coglione, ce n'è un altro apposta, no? Non so se lo sapete, nel 78% dei casi, c'è il copilota, però non è che, cioè, adesso, va bene tu, cioè, se devi anticipare i pezzi, almeno indovina. Rubagli le chiuse. No, nel 78% dei casi, cioè, c'è il copilota ma è il migliore amico, non sto scherzando, perché si iscrivono di solito tra migliori amici alla scuola di piloti. Quindi ho scoperto che nel 78% dei casi il pilota e il copilota sono migliori amici nella vita. Questo significa che quel coglione del copilota, a questo punto, ha preparato l'esame come quello lì. E siccome lui è il copilota e l'altro è il pilota, vuol dire che c'è anche stata una telefonata del copilota tipo: oh, fra, ma il capitolo sul decollo non era da fare, vero? Perché io non l'ho... Quindi c'è quello lì che fa: Fabrizio, scusami, ma quella spia rossa lì cos'è? E non ho minima idea. A me all'esame hanno chiesto le uscite di sicurezza, io non... e intanto l'aereo cade e fa: avvisa, almeno avvisa, va bene. Brace, ma è brace, sul libro c'era scritto brace. Brace, ma no, è brace, madonna. Ma tu cosa stai facendo con queste braccia? È una cosa, so, fammela fare. Vabbè, questa è una cagata, poi la tolgo. Quindi, per farla breve, non so se si è capito, io ho talmente tanta paura di volare che la prossima volta che mi va di fare un viaggio attacco un video della Thailandia su YouTube e me la faccio tutta in ciclette. Grazie. Signore e signori, un grande applauso per Nemo. Bon. Io adesso... Tu puoi andare a mangiare. Perché adesso vai, va bene tutto. Ho lasciato da mangiare qua. Vado, tu fai il tuo. Io tanto adesso perdo un po' di tempo, poi presento il prossimo. Devo prendere il foglio perché... Devi prendere il foglio, Ma è qua. Fortunatamente la Gemis è vicino. Dai, ok. Io lascio qua il microfono. Ha un bellissimo nome e cognome questo ragazzo. Ha proprio un nome che ti fa capire che sei nel nord Italia. Non è ironico. Mi direi più Monza Brianza. Non so se sia di queste zone, ma ha quel nome e dice queste cose qua. Intanto com'è? Vi state divertendo? Com'è stato Nemo? Bravo. Cazzo, bravissimo. Arriva, presenta, fa il pezzo. Non capisco, mi stavi chiamando? No, perché a un certo punto... No, vedo lei che mi fa. E dico, vuoi un bicchiere d'acqua? Chiedo... scusami, no, non capivo. Va bene, allora andiamo avanti che siamo come sempre lunghi. È la prima volta che vieni? Perfetto, un battesimo di fuoco. Signore e signori, fate un grande applauso per Giorgio Brambilla. Microfono. Ciao. Ciao. Tutto bene? Sì, dai. Come avete passato le feste? Bene. C'è a chi piacciono, a chi no, a chi piuttosto che sorbirsi l'ennesima messa di Natale si finge malato e poi muore. Vero, Ratzinger? Tutti a dire: è morto il Papa. Figa, non è più il Papa. Cioè, ma tu così rompi i coglioni tutta sera, proprio diretta, senza passare da me. Non devi dire, tu sei pubblico. Noi siamo comici. Grandissima. Non devi dire, scusa, ho fatto cadere il vino. Bellissimo. Non ti ho preso per un soffio, mi spiace, è colpa sua. Di, come ti chiami? Gian Giorgia, ho fatto cadere il vino. Cioè, non è che, capito, non è più il Papa. Quindi tu non è che dici: è morto... Cioè, se domani muore Berlusconi, non è che dici: è morto il Premier. Se domani muore Berlusconi, dici: era ora, cazzo. Ok? Grazie. Berlusconi ha 86 anni, come mio nonno. Appena. Chi è che ha detto appena? Non io. No, meno male, perché sei molto attenta. 86 anni come mio nonno. 86 anni e si scopa donne della metà dei suoi anni. Cazzo, 86 anni, a un certo punto mi verrebbe da dirgli: potresti evitare di farlo almeno al pranzo di Natale, nonno, cazzo. Con tua nipote, poi. Io ho un amico così che si scopa qualsiasi cosa. L'altro giorno viene lì e mi fa... Giorgio, ho scopato con una sorda. Un vantaggio pazzesco. Perché? Perché non mi sentiva scorreggiare. Sì, vabbè, ma cioè, si sente la puzza. Vero. Ma tanto lei stava cagando, quindi... Grazie, un applauso. Mio padre ha scorreggiato mentre faceva sesso. L'ha raccontato a una cena di famiglia. Mia cugina era disgustata. Anche perché era lei che le stava facendo un pompino. Quindi, ha detto, cazzo! A sto punto era meglio il nonno. Le cene di famiglia sono sempre un po' così, no? Cioè, nessuno le vuole mai fare perché c'è sempre quel parente che non vogliamo vedere. Vero o no? Vero o no? Fortunato Bocelli, infatti. Quando ero piccolo mi hanno detto che i disabili sono i primi a ridere delle loro sfighe. Quindi ho fatto una battuta sui sordi, una battuta sui ciechi, quella sui muti non la faccio perché tanto non li sentirei ridere. Quindi... da piccolo, oltretutto, una delle cose che avevo io, una cosa che mi collega all'infanzia, era che avevo un Tamagotchi. Sapete, qualcuno sa cos'è un Tamagotchi per alzata di mano? Dai, quanti? Allora sarà molto più facile questa parte. Tamagotchi era quel figlioletto virtuale che se gli davi troppo da mangiare moriva, se non gli davi da mangiare moriva, se non gli davi le medicine moriva, se non gli pulivi la merda moriva, se lo lasciavi lì moriva, figa, qualsiasi cosa facevi moriva. A inizio anni 2000 morivano talmente tanti di quei figlioletti virtuali che nella mia classe l'abbiamo ribattezzato Delitto di Cogne Simulator. A 8 anni avevo un Tamagotchi e almeno una decina di pesci rossi. Sapete cos'è la cosa che ho visto morire di più quando avevo 8 anni? No, gli americani, era il 2001 quando avevo 8 anni. E il Tamagotchi è giapponese, quindi quando lo accendevate praticamente usciva un uovo, e siccome i giapponesi sono pervertiti, ninfomani, pazzi, hanno dovuto mettere un disclaimer con scritto: l'uovo si schiuderà in un paio di minuti, non è necessario fecondarlo. Ok? In Italia questo disclaimer non c'era. Ho dovuto buttare il mio primo Tamagotchi. Quindi il Tamagotchi nasce, cresce, e tu gli devi dare da mangiare, lo devi lodare quando fa il bravo, gli devi dare da bere, gli devi dare le medicine. Figa, neanche con mia nonna di 90 anni faccio tutte ste robe. Sarà per questo che è morta. E quindi poi il Tamagotchi viene su e bisogna iniziare a prendersi cura di sto Tamagotchi, no? Non come ho fatto io con mia nonna, che ho lasciato morire subito dopo aver provato a fecondarla. Invece perché c'è sempre un misto di no, ma volete ridere? Ridete. Tanto è mia nonna che mi trombo, non è la vostra, che cazzo me ne frega. E poi è pure morta, un applauso. No, niente, mi è venuto in mente questo delirio, e chiudo con questa cosa dei bambini, perché appunto io ho questo feticcio, cioè mi piace andare tipo alle sagre di paese, perché appunto io vengo, cioè senza scherzi, vengo vicino a zona Monza Brianza, ci hai preso per il cognome, e lì è pieno di paeselli, e, tipo un giorno sono andato sulla riga di un traguardo, di una gara per bambini, e arriva, cioè ero difficile, c'eravamo lì io, i loro genitori, un sacco di gente con la stessa passione di Michael Jackson, spoiler non è il canto, e eravamo lì sulla riga e il padre del bambino che è arrivato secondo era di fianco a me, e lui gli fa: bravissimo, sei arrivato secondo, E il bambino comunque era un po' deluso, capito? Non era prima, aveva perso. Allora io lo guardo e gli faccio: ti ricordi che arrivava sempre secondo? No, chi? Appunto, nessuno si ricorda che arriva secondo, perdente. Il padre mi ha guardato e mi ha detto: meglio che inizi a correre, perché se ti prendo ti spacco la faccia. E io con molta calma gli ho detto: guarda, se corri come quel perdente di tuo figlio, col cazzo che mi prendi. Lui si è incazzato di brutto. Non so se perché pensasse effettivamente di essere un perdente, o forse perché era sulla sedia a rotelle. Grazie! Giorgio Brambilla. Devo dire, una gran bella persona. Si affronta tematiche in modo delicato. Si è chiavato praticamente tutto quello che deambula. Ma va benissimo così, Giorgio. È un grande inizio. Bene, andiamo avanti perché ho perso il foglio, l'ho messo in tasca, scusate, ho iniziato a bere, quindi anch'io perdo i colpi, ma sempre meno di Valerio Erò. Questa è una pausa scenica. Ok, c'è la prima e unica donna della serata, che forse sa che deve venire lei perché gliel'ho detto, quindi noi tendiamo sempre ad avere anche una controparte femminile su questo palco, purtroppo scarseggia, forse fa schifo il posto dove noi ci esibiamo, o facciamo schifo io, Valerio, o le persone che vengono coinvolte, è comprensibile. Però c'è questa ragazza che stasera invece ha deciso di sfidare la sorte e si sta per esibire su questo palco, quindi signore e signori, un grande applauso per Nicole Ronchi! Salve, d'apposto? Ma la gruppi che era qua davanti è andata in bagno? Raga, dove vai? No, sorella, c'è bisogno di te. No, really? I need you. Come on, come back, come back. Puoi farlo dopo? Dai. Girls support, girls. Eccoci qua. Forse arriva. Allora, io mi chiamo Nicole Ronchi. Di solito non sottolineo mai il mio cognome perché fa brutto, secondo me. Cioè, ciao, piacere, mi chiamo Mico Ronchi, sono a un colloquio di lavoro, non sono laureata, questo porterà probabilmente la sua azienda ad assumermi come lavafinestre, però, però questo lavoro me lo merito, la prego, per favore. Allora, perché vi sto dicendo nome e cognome? Perché, metti caso, ciao sore, come ti chiami? Stefania. Mettiamo caso che Stefania, che è così supportante, decida di essere veramente supportante e moderna fino in fondo, e decida di sua spontanea iniziativa, spontanea, di farmi una serie di Instagram stories stasera taggandomi. Stefania si chiederà: io lo faccio anche, sorella, ma cioè, devi crescere quel follower su Instagram? No? No. Allora, la storia, ragazze, quindi una, due, tre, quattro, Stefania, tutte, la storia è questa, e so che voi potete capirla. Il mio attuale crush è di Tirana, quindi non parlano poi italiano, ma se vede tutta una serie di Instagram stories che io ricondivido sul mio profilo, pensa: ah, ma allora è una donna interessante, ma allora vale la pena commentare la storia. Va bene, ok, le metto like perché Stefania le ha fatto un Instagram stories, quindi un bel applauso a Stefania e a tutte voi che sicuramente mi supporterete stasera. Giusto, Stefania? Brava. Come attrarre l'attenzione? Pesca a strascico. Pesca a strascico. Voi buttate l'amo e sbam, forse arrivano. Forse arrivano e forse per il 28 gennaio si tromba. Allora, io sono un prototipo. Adesso inizia il pezzo, giuro. Cioè, prima c'è stata l'invocazione d'aiuto, dai, per favore, aiutami a ciulare. Adesso parte il pezzo. Allora, io sono quel prototipo bruttissimo di donna dopo i 30 che non nutre un amore particolarmente forte e una stima incrollabile nei confronti del genere maschile. Mi dispiace tantissimo, ma non è che non ci diate proprio motivi per detestarvi, specie quelli nati dopo il 76. Io non so cos'è... Dopo, 76. Okay. Io non so cosa è successo, ma cioè, sul 76 sono delle merde, la cosa è chiaramente autobiografica, non faccio neanche finta di dire no, ma ho detto una data a caso. No, gennaio 76, terribile. Quindi io colleziono fondamentalmente stronzi come Anna Maria Franzoni telefonate al telefono azzurro, ok? Quindi ne colleziono un po', Ne colleziono decisamente un po'. E secondo me nel 2023 è giusto condividere il proprio sapere con gli altri, che sia l'ultimo inserto di cavalli e segugi o, come nel mio caso, quando capire esattamente quando levarsi dal cazzo all'interno di una relazione. Ok. Perché io sono sicura che qua dentro nessuno dei presenti, e vedo che siete molti di più di quello che pensavo, sa quando è il momento esatto in cui levarsi dal cazzo. Ne sono assolutamente certa, perché a meno che voi non siate di primo pelo, e qua non vedo minorenni, sono minorenni? No? No, no, ok, non ne vedo, no, guarda, ci ha provato, ma no, no, no. Quindi, volendo condividere col resto del mondo il mio sapere, sto parlando soprattutto alle donne stasera, ma anche agli uomini, sto parlando anche a uno, due, tre, quattro, cinque, tutti, ok? Alzate tutti le antenne per evitare alle future ex, che spoiler, succede, cioè va così a un certo punto, ok? Lo sai, di spendere migliaia e migliaia di euro in terapia, perché la terapia costa tanto. A tal proposito, un fortissimo applauso al dottor Andrea Di Traia in Giamaica da settembre con i miei soldi. Quindi presto uscirà su Amazon il mio libro, Ci si leva dal cazzo quando? Nel frattempo ho portato qui con noi il bigino, che so che tutte voi vorrete, quindi a un certo punto durante la serata lancerò queste pelle di saggezza al mondo per salvarne una, non dico tanto, una, giusto? Giusto, esattamente, giusto. Allora, il primo punto fondamentale... Nemo è un mio carissimo amico, l'incredibile personaggio che ha appena parlato di Disastreri, è un mio carissimo amico. Questa battuta non la approva perché non la capisce, perché non riesce a capirla, ma io l'amo profondamente ed è veramente la prima red flag del gruppo. È quella importante, è quella per cui voi dovete veramente levarvi dei coglioni a confronto, la violenza domestica non è nulla, ok? Il primo punto, ci si leva dal cazzo quando... ti dice che è del Capricorno. E chi ha riso sa, giusto, tu lo sai. Allora funziona così: sei Capricorno, ascendente Scorpione, 9 su 10 aveva una ex che stima ancora veramente tanto a Istanbul. Sei Capricorno, ascendente Leone, avrà una ex che ama veramente moltissimo, l'amo veramente tanto ancora a Parma. Non lo voglio sapere. Sei del Capricorno. No, solo per i maschi. Ah, okay. Che la donna Capricorno è spigolosa. Sei salda, perfetto. No. Beh, prego. Mentre invece sei Capricorno, ascendente Ariete, qua tutto a prendere appunti, è il male senza cuore. Ok? È il Ted Bundy delle relazioni, tradotto a un serial killer. E cosa si fa di fronte a un serial killer? A parte ciularselo, perché i pazzi notoriamente scopano meglio, dobbiamo perdere questa brutta abitudine. Ci si leva dal cazzo, chiaro? Cioè, siete vivi, raga, tutto a posto. Grazie Stefano. Ci si leva dal cazzo quando a 45 anni, come stato di WhatsApp, e lo stato di WhatsApp è più importante di quello che sembra, non ha scritto niente, neanche una parola che lo rappresenti. So, l'inno dell'Inter nel caso in cui fosse interista, no. Il codice fiscale di Moggi nel caso in cui fosse Juventino? No, niente. Ha messo solo due emoticon che lo rappresentano fino in fondo. Due. Pesca e soldi. Come sfera e basta. Una crisi di mezz'età talmente cattiva che a me lui mandava gli audio con l'autotune. Terribile. C'è una cosa agghiacciante. Io non lo auguro nemmeno al mio peggior nemico. Non lo auguro nemmeno a Stefania, che conosco da 5 minuti, ma la vedo supportante. Stefania, hai parlato un sacco prima, adesso ti tiro in ballo, cioè, ti voglio qui, ti voglio presente, su chiamata. Stefani, perfetto, Stefani. Ci si leva dal cazzo quando Stefani dice che te devi levare dal cazzo, un bel applauso. Ci si leva dal cazzo quando dopo 3 settimane di frequentazione vi chiama amore. No, buono. Non è amore. Non si ricorda come cazzo vi chiamate. Anna, Clara, Stefani, Nicole, no, tutte amore perché non si ricorda come cazzo vi chiamate. Ci si leva dal cazzo quando dopo un corteggiamento bello, di quelli old school, da gentleman, finalmente voi decidete di concedere quello che pensavate lui volesse. E invece lui vi chiede di avere un rapporto sessuale di 20 minuti con la vostra ascella destra. È frustrante. In quel caso ci si leva dal cazzo, vi levate dal cazzo voi, l'ascella, il deodorante, tutto. Tutti levarsi dal cazzo. E questa prima perla di saggezza te la prendi tu perché sei vicina. Grazie. Ci si leva dal cazzo quando dopo 2 mesi di fidanzamento vi chiede di andare a convivere. No buono. Perché non è amore, ok? È una fuga. E nella vita si fugge da 3 cose. Dalle responsabilità, e onestamente lo capisco. Dalla madre, continuo a capirlo. E da Equitalia. E nel caso del mio ex, vi assicuro che ha la madre perché a 7:30 l'ho visto. Grazie. Bello. Ci si va dal cazzo quando, e questa è serissima, prima di un normalissimo selfie, vi chiede, visto che scopriamo tanto bene, dovremmo fare un porno per la cartella dei miei ricordi. Io voglio immaginare questa incredibile scena. Lui che prende il telefono, la cartella dei ricordi, inizia. Allora, qui ero a Miami con mia cugina Anna. Qua ero davanti al Duomo di Trieste, veramente molto molto carino. Ecco, questa è Luana che lo prende nel culo. Cioè, questi ricordi. Io mi voglio chiedermi, ogni tanto mi chiedo a chi li farà vedere. Secondo me è al nipote, è l'unico che sopravviverà probabilmente, non so. E questa incredibile paia di saggezza, so che tu non la vuoi, ma la prendi. La vuoi tu? Cazzo, quanto entusiasmo, vado? Vai, è atterrato molto prima. Ci si va dal cazzo quando fa di tutto per cercare di conquistarvi, ma è già sposato. Con Dio. No, bello. Ci si leva dal cazzo quando la madre fa di tutto, ma di tutto, per la farvi lasciare, perché lei ha già comprato i biglietti sotto Pasqua per Ibiza e il piccolino 40 anni suonati deve fare 9 esperienze. Allora, noi speriamo che 9 esperienze siano cose come le piattole, la scabbia e la viaria, che col sesso non c'entra assolutamente niente, ma noi comunque gliela si augura. Grazie. Ci si leva dal cazzo quando a un certo punto lui vi guarda intensamente negli occhi e vi dice come sarebbe facile portarti di sopra adesso e farti impazzire. Io quando ho sentito sta cosa ho pensato, vuoi vedere che questo qua vuole cambiarmi di nascosto la password del wifi? Con disprezzo. Ci si leva dal cazzo quando improvvisamente non si capisce per quale motivo a 22 metri dal suo portone un bel giorno vi dice che lì davanti voi non vi potete più baciare perché non è elegante. Io immagino che eleganza avesse anche nome, cognome e codice fiscale, ma vorrei aprire una piccolissima parentesi su quello che è o non è elegante, perché la stand up comedy fa anche questo, passa dei messaggi profondi, cioè dei messaggi che poi voi tornate a casa e vi mettete lì a pensare al posto di ciulare, allora che cos'è che ha detto quella sul palco, ha parlato dell'eleganza, sì, quello che non è elegante, quello che è elegante, mica che capelli di merda che aveva, cioè, però sono sicura che voi non farete questo stasera. Però una parentesi ve la apro, non è elegante fare una serie di cose tipo ruttarsi in faccia, ok? Non è elegante non cambiarsi i jeans per 4 mesi e decisamente non è elegante votare Fratelli d'Italia, ma per niente proprio. Ci si leva dal cazzo in un sacco di momenti, ci sono una marea di red flag che tutti vediamo, ma che tutti facciamo finta di non vedere, perché siamo tendenzialmente un po' stronzi. Non c'è nessuna ragione particolare che vada oltre ad essere un po' stronzi, poi sei anche un po' arroganti. Per me cambierà, ma chi cacchio vuoi che cambi? Ma dai, fai la seria. Quindi ci si leva dal cazzo in un sacco di momenti, ma per quanto riguarda le donne, il momento principale in cui ci si leva dai coglioni molto rapidamente è quando lui vi oggettivizza. E a una donna capita veramente di frequente, può capitare per qualunque motivo, per qualunque ragione, ed è quello il momento in cui ti levi dai coglioni. Quindi chiuderò questo monologo meraviglioso, meraviglioso, oggettivizzando il maschio, perché noi possiamo, voi lo fate, non si sa perché, ma noi possiamo. Noi possiamo. Quindi lasciate che paragoni per un secondo l'uomo, il maschio, a un pinguino. Il pinguino è un succhia clitoride col becco. Sì, il clitoride va nel becco. E sì, il clitoride esiste. Bene, sì, giuro che esiste. È a 7 velocità. Vibra e non parla. E signore, per una volta, a venire in meno di 10 secondi sarete voi. Nicole Ronchi. Grande, grande, grazie a tutti. Non siamo a metà, siamo a un terzo più o meno. Sta andando bene? Come va? Sento dei sì tiepidi. Ci sta, ci sta. Ancora più tiepidi li ho sentiti. Ma adesso non li sento neanche più. Sta peggiorando la situazione ed è un vero peccato, ed è un verissimo peccato, perché adesso noi abbiamo, come sempre in questa serata, un momento un po' particolare. Cioè, fino adesso avete visto comici che tendenzialmente fanno monologhi dove parlano di tematiche X, raccontano la loro vita, i loro episodi, insomma monologhi, ma noi qui adesso rilanciamo e tiriamo fuori i carichi da 90, i cosiddetti carichi da 90, e abbiamo un ragazzo che fa un po' di tutto. Imita, barzellette. È chiaro che bisogna entrare nel suo mood, quindi c'è un bisogno da parte vostra di una spinta verso di lui, e lui vi ripagherà. Però dovete fare questo sforzo, questo atto di fede. Quindi se voi mi dite che adesso lo fate, io lo chiamo. Lo fate? Grandissimi. Con grande piacere che chiamo un ragazzo da un nome molto molto complicato, non so qual è il nome, io inverto sempre i fattori, ma si chiama José Antonio Dante. Ormai io e José, scusami, abbiamo questo duetto, quindi esatto. Signori, è un momento importante, cioè non facciamo casino quando c'è il dadaismo, porca puttana. Che cazzo, gli altri li ascoltavate, parlavano dei cazzi loro, questo qua fa una roba incredibile, silenzio. Ok, penso che questa volta non farò il solito dissing a quell'attore là. No, perché lui fa anche polemica con un noto attore italiano, non so se lo sente, no, competitor. Per una serie TV che non mi è piaciuto un granché, quindi l'ho criticata. Ma fai nomi e cognomi come l'altra volta. Lino Guanciale. Di cosa pensi di Lino Guanciale? È un bravissimo attore, una brava persona, ma quella serie TV... Tu l'altra volta hai detto Lino Guanciale è un uomo di merda. No, non l'ho detto. Ho detto i due personaggi di quella serie, neanche il suo, tra l'altro. Però tu, mi ricordo che tu hai proprio messo Lino Guanciale vicino a un uomo di merda. Io no, lo ricordo. Non è vero. Vabbè, vedremo dopo. No. Vuoi fare? Fai. L'altra volta mi ha dissato, ha sentito che parlavo male del suo telefilm. E cosa fa? Mi scrive: oh, almeno io sono un attore fatto. Comico da quattro soldi. Così, ti ricordi? Mamma. Lino Guanciale questo? Sì, comico da quattro soldi. E allora tu è lì che gli hai detto uomo di merda. Vado lì a piangere in un angolino, scusate. Signori, No, seriamente. Non ridete, cioè, questo è importante. È un momento serio, infatti. Dove siamo? Al bar? Sì, in effetti sì. Manda a fare in culo qualcuno di quelli dal bar. C'è uno che vuoi tu, uno random. Io sono, no. Mi sto esibendo, mi devi ascoltare. Vabbè, così gli passa ancora la voglia. Tu dici che si rischia l'effetto con... Bravo. Adesso comincio con le barzellette stupide. Vuol dire, adesso vado alle battute. Sono battute, sono freddure, cioè... Poi i cavalli di battaglia saranno alla fine. Alcune di queste si capiscono 20 minuti dopo. Quindi magari sì, esatto. Siete fuori, fumate. Ah, cazzo, ascoltatele. Io faccio... Sì. La rotino, poi fai tu. Sì, ti do una serie di cazzate. Almeno sono sincero, non dico come si suol fare, no? Come Lino Guanciale, esatto. No, ho detto, di solito uno dice: racconto delle barzellette. No, io sono sincero, dirò un paio di cazzate. Proprio così, almeno sapete già cosa andate incontro. Quindi. Di tu quando sei pronto. Sono pronto anche adesso, dai. Faccio un 3-2-1. Chiamo un applauso, qualcosa che rompa la. Vai, applauso! Grazie, Guanciotti. Adesso comincio con le mie cazzate. Allora, per cosa dice? Una goccia di sangue quando cade fuori da una ferita o da un taglio. Cosa dice? Cosa dice una goccia di sangue quando cade fuori dalla ferita e da un taglio? O da un taglio, da qualsiasi cosa. Scusa, scusami, non voglio rovinare. No, tranquillo. Cosa dice? Dice, sono giù di morale, non sono in vena. Infatti con la prima parte non l'avevo capita, con la seconda invece ha tutto un senso. Esatto, esatto. Questa è la prima, cioè per dirvi, saliamo di livello. Esatto, saliamo. Ah, belle scarpe comunque, mi piacciono queste scarpe. Belle scarpe. Ma è una battuta? No. A proposito di scarpe, se indossi delle scarpe color cenere, che modello di pantaloni indossi per abbinare? Se indossi delle scarpe color cenere, che pantaloni che modello di pantaloni indossi? Che domanda è? La sigaretta, bravo. Gli sono arrivati. Tutti comici qua stasera, cazzo. Venite voi, mi le palle, la faccia vista Colorado. Qua, che fanno lì è facile. Mi sa che l'hanno vista Colorado per quello. Ah, quindi tu rubi. Sei un infame. Prendo spunto. Cioè, mandi a fare il culo, lino guanciale, rubi le battute, pezzo di merda. Ma non lui, due personaggi di quella serie, che si chiamano Gabriele e Lorenzo. Ma qual è la serie? Non me la ricordo. Sopravvissuti. Ah, è tipo Lost fatto 20 anni dopo come concetto. Sì, no? Solo che in Lost la barca andava puttana, invece no, qua la barca naufraga. Pare che in Lost era un aereo. Adesso no, quel non, fosse voglio, lì, voglio, non voglio fare Stefani no, lì, che va a mettere i puntini su lei, però il mezzo di trasporto andava puttani, invece di no, rimane più o meno intatto in mezzo al mare, non come Orietta Berti, finché la barca va, no, non va più, però galleggia ancora. Quindi c'era la gag, voi se non ve la presentano le cogliete, buonanotte no, signori. Per fare una piccola parentesi. Che cazzo, perché... vai, la prossima che c'è, calda. Grazie. No, ha chiesto cosa fossi sopravvissuti, l'ho spiegato un attimo. No, ma non è colpa tua, non è colpa tua. No, tranquillo. E loro allora, non capiscono, loro devono andare a Colorado. Fai, ok, fai. Vedo, ho visto il bar, mi è venuto in mente una cosa. Ok. Ha visto il bar! Ok. Che cosa ordina un cannibale al bar? Che cosa ordina un cannibale al bar? Cosa ordina? Il cameriere o lo staff? Cioè, il cameriere! È bella! Oh! Cameriere! E non è ancora finita! Non è finita ancora! Se vuole l'antipasto, se vuole l'antipasto, prende il cameriere. Se ha più fame, si mangia il cameriere e il barista. Se vuole anche il dolce, si mangia anche il titolare del ristorante. Giusto? Ah, okay, okay. C'è il menù completo. Il ristorante Casa Lecter, di Hannibal Lecter. Che adesso non è più un serial killer, ha cambiato vita e ha aperto un ristorante. Dove? Dov'è? Lì in America. Ah, ok. Dove che abitava? Non mi ricordo dove abitava. No, nel Silenzio degli Innocenti abitava a Memphis, quindi a Memphis, nel Tennessee. Quindi... Oddio, in America non me l'aspettavo. Sì, a Memphis. Mi ha un attimo mandato... Mo vedi la popolazione di Memphis che diminuisce gradualmente, non trovano più cadaveri. Dov'è? E vedi Lecter ingrassato. Non lo so, non ho idea. Perché chiedete a me... Questo mi piace, come quando l'altra volta mandava a fare il culo lino guanciale. Con queste digressioni a me piacciono, che te devo dire. Vai, ce l'è, vabbè, il ritmo. Vabbè. Perché un bue sbatte la testa contro il muro e pratica autolesionismo? Sono molto lunghe queste domande, c'è anche molto complesse. Perché un bue pratica autolesionismo? È la sintesi. Perché un bue pratica autolesionismo? Per farsi la bua. Ho sentito risate, no e bella addirittura. Alza la mano tu che hai urlato bella. Grazie. Anche qua, bene. Ma non era una critica, volevo solo vedervi. Ok, adesso arrivano i cavalli di battaglia che ripropongo. Sono le imitazioni queste? No. Ah scusa, ma le fai dopo? Certo che le faccio. Certo che sì. Cazzo ragazzi, posso prendere da bere un attimo perché è... capito che sarà lunga, quindi... Vamos. Ok, perché i muratori... o i piastrellisti indossano un giubbotto antiproiettile? Tanto non lo sapevo, però facciamo finta che sia perché così. Lo volete sapere perché? Per proteggersi dal cemento armato. Ah, che spara, hai già capito? Sì, spara, sì. Cioè, è armato, grazie a te. Una mini mitragliatrice Uzi, altri una Colt. E scommetto che i cementi armati di Memphis sparano di più. Minchia, lì sì. Là le armi, sai. La voglia. Prego. Allora, prima ho guardato il cellulare. C'era scritto in inglese e volevo metterlo in italiano, quindi sono andato su impostazioni, in inglese setting, e mi sono detto, se c'è setting, dopo che cosa c'è? Dopo? Otting, noving, dieching, undicing, volete che conto fino a centing? No dai, ve lo risparmio. Però secondo me se gli lasciavi il tempo di rispondere probabilmente dicevano di sì. Setting, otting, 9. No, no, dieci, probabilmente, undici. Sai, sono quelle cose che non si sanno. No, sì, come quella battuta, Trento e dopo Trento c'è 40, 50, 60, 70. L'hai rubata questa, vero? A Claudio Bisio. Ah, complimenti, lui proprio gliene fotte un cazzo. Gente con 30 anni di carriera lui ruba, va bene, va benissimo. Sono cresciuto con Zeri che fa un lato, quindi... Ma sta a vedere che Claudio Bisio ti vede una sera qua e va a dire ah, no, quella battuta. Ma magari... Tu speri. No, ma cioè, tu magari. Hai la querela, cioè, quindi quella roba lì. No, ma già mi ha dissato guanciale, quindi non voglio. Ma è un modo per svoltare anche quello. Giusto. Hai ancora freddura? Andiamo alle imitazioni. L'ultima, che è la più cretina di tutte, l'ho tenuta per ultimo. Dulcis in fundo. L'ultima è la più cretina di tutte. Sì. Grazie. Mi devo preparare, ok, sono pronto. Non fatemi incazzare quando non c'è silenzio per lui che mi girano i coglioni. Grazie. Ma scusa, perché le bei momenti bisogna. Nessuno sa la ricetta segreta della Pepsi. Perché? Tranne Pep sì. Ah, hai fatto il trattino in mezzo. Pep Guardiola del Barcellona, l'allenatore lì. E non so che cosa alleni adesso, l'allenatore Pep Guardiola. Grave, ti devi preparare se vuoi fare queste digressioni. Adesso però, signori, abbiamo finito le freddure che come vedete scaldano. Sì, fatelo perché... Grazie. Scaldano e quando uno è caldo lui imita. Però anche qui, come fa domande articolate? Non è che imita Silvio Berlusconi, magari ce l'avevi, non volevo rovinartela. Però imita cose complesse. No, comunque mi è venuta in mente un'altra battuta. L'ultima, vabbè, allora è l'ultima. Cioè, pensata adesso, nata adesso. Non mi è venuta in mente ora, vai, ok. Vai, allora, c'è un bambino che vede due cani che si montano e chiede: mamma, cosa stanno facendo? E quel cane si è fatto male e lo sta aiutando portandolo in groppa. E il bambino risponde: ah, proprio vero che fai del bene, sei buono e lo prendi nel culo. Eh sì. Questa è sociale. Adesso faccio limitazioni, ve lo prometto. Perché comunque in un'epoca in cui tutti siamo molto individualisti, lui vuole rompere questo meccanismo e vi dice no, vogliamoci bene, anche se il rischio di prenderlo in culo c'è. Giusto. Adesso andiamo con le imitazioni, immagino. Adesso sì. Le carico, Sì, sì, sono carico. Penso che avete visto tutti Masterchef. Ah, no? questa è quella che mi piace di più. Faccio tutti. Cioè, tu mi fai la più bella all'inizio. Tutti faccio, tutti. Ragazzi. L'altra volta sono fatto uno o due dei giudici. Oggi vai, no. Vai. Diamo posto che arresto, ok. Allora, c'è Cracco. C'è cazzo, Carlo Cracco. Entra Cracco con Barbieri e Bastianic, no? Arriva Bastianic. Vede quel piatto e fa: questo piatto mi è rimasto incastrato in gola come pallina di catrame. Tu vuoi che muoro? Vuoi che muoro? Mi stai deludendo. Deludendo. No, va bene. Cazzo, se chiudo gli occhi è uguale. Adesso mando Cracco, perché io quello non mangio. Vai, Carlo, chiudo. Vai. Chiudeteli anche voi, signori. Fate sto esercizio. Occhi chiusi. Sento il profumo della lasagna. Ma è lui che lo fa. Eccomi, sono Carlo Cracco. Ma cos'è sta roba? Ma cos'è? No, no, no, non lo assaggio nemmeno che mi fa schifo. Ma la vuoi capire che non ti vuoi va a casa oggi? Sì? E allora? Via, veloci! E questo non lo assaggio nemmeno che mi fa schifo. Ci vuole un atto di fede, ci vuole. Bruno, vai tu. Ah, ti lanci anche. Cazzo, fai tutto. Aspetta, che mi sta venendo il suddetto coccolone. Mi presti per favore i tuoi occhiali? Gli occhiali. Sì, tagli gli occhiali che stai imitando. Oh, sono sporchi. Vabbè, non è che le sue cioè. Ma cos'è sto mappazzone? Niente mappazzoni, ho detto niente mappazzoni. Se fai così nel mio ristorante, ti licenziano subito. Il mio ristorante serio, il mio, non che fa mappazzoni. Questi mappazzoni li dai al tuo cane, non a me, capito? Ma non lo so io. Adesso mando Antonio Cannavacciuolo, mo vedi. Anche quello fai? Big fan napoletano, vai! Grazie. Posso dire che Barbieri ha una leggerissima inflessione russa? Ma proprio... Sì! Anch'io lo stavo notando! Ecco Cannavacciuolo. Beh. No! Non lo mangio nemmeno questo. Adios. Non ho sentito Napoli, però io secondo me tu più che un imitatore, cioè tu ti impari a memoria i dialoghi. Eh sì. E di che va benissimo. Ma è proprio una cosa bellissima. Esatto. Come Berlusconi, so fare anche lui. signori, porte, va di moda, quindi Berlusconi. Berlusconi. Cazzo! Crivio! Mi consenta! Sono Silvio da Arcole. Sono cliente fisso qua anche io, Alex Alge. Voglio fare come quando ci danno le olgettine, qua faccio le exalgette, le exalgine. Signori e signori, sulle exalgine, a meno che Giuseppe Dante non abbia altre imitazioni, grazie, grazie. Io vi chiedo un cazzo di grandissimo applauso. Grazie, grazie mille. Per Antonio Giuseppe Dante. Grazie, grazie mille. Puoi inseriscilo pure dove hai più opportuno. Non è finito il dadaismo, perché adesso saliamo ancora di più. Oh, sì che saliamo. Ah, sì che saliamo. Qui abbiamo un artista, abbiamo un poeta, ha un look da poeta, ha un nome che ricorda anche il personaggio di una nota serie televisiva di cui lui è un po' la controfigura del suddetto attore. Si chiama Romualdo, lui, Romualdo Fantaghirò. Non sto dicendo che è uguale a King Rossi Stewart, ma il suo perché. Mio padre era simile a King Rossi Stewart. Vedete, lui interviene, non gliene fotte un cazzo neanche a lui, ma è proprio bello. Lui parla da lì, è in piedi da 40 minuti e sta dialogando con i comici. Occhio che ha un, come dire, un'esplosività che potrebbe mandarvi un po' giù, nel senso che è molto scatenato. Sei scatenato? Più o meno, è una bella risposta per uno che deve salire qua. Ti senti, sei carico? Carichissimo? Cioè addirittura issimo mi stai dicendo? Io adesso ti chiamo, eh? Ci siamo! Dai! Romualdo Grieco! Buonasera a tutti, io sono Romualdo Grieco, come sono già stato presentato. Sono carichissimo, nel senso che ho un'ansia pazzesca e come sempre sto per cagarmi addosso, quindi probabilmente incomincerò a sparare a mitraglia. Niente, nel caso paratevi con i piatti. Poi non lo so, se volete fare come i cani e ripulire. Va bene. Allora, sono Romualdo Grieco, ho 26 anni e sono single, che giusto per tradurre anche per i miei nonni che sono qua presenti in sala, single significa celibe o nubile, sia per uomini che per donne, ok? Chiaro il concetto? Quindi nonno, puoi finalmente smetterla di chiedermi se ho la, se sto frequentando una ragazza? Puoi finalmente smetterla, eh? Finalmente. Visto che tra l'altro stasera ci sarà anche il single party all'Alcatraz, quindi la festa dei celibi e dei nubili, come suona bene in italiano. Quindi, e io sono già incompleto, sono intenzionato ad andarci appena avrò finito qua, quindi vi abbandonerò e il mio piano è andare a, insomma, ad avere qualche culo che twerca sul mio pacco. Ora, questo sarebbe il mio piano. Spieghiamo un attimo anche a mia nonna e a mio nonno che cosa sia il twerk, che sarebbe un ballo che si fa con i glutei principalmente, teoricamente fatto principalmente da ragazze ma anche da uomini volendo. Quindi non so se c'è qualcuno che, c'è qualcuno che vuole dare una dimostrazione pratica di twerk. Ci voleva Valerio, cazzo. Sai che è vero? Sai che è vero? L'unica volta, cazzo. Dovevo chiederlo a lui. Non lo so, davvero. Dai, lo so che c'è quale. Sono sicuro che c'è qualcuna di voi che sappia twerkare, ma non lo vuole dimostrare. Nemo. Allora, per così. Silenzio, eh? Questo è uno spettacolo serio. Questa è una per il nonno, vai. Su. Allora, nonni, lo faccio solo per voi, eh? Certo. A serve, dici? Non so se te l'hanno detto, ma il twerk è una cosa che si fa col corpo, quindi questo... Ok, almeno... proceda pure. Dai. Faccio una base reggaeton. Tu pata tu pata tu pata tu tu tata pu pata tu pata pu tata pu ta pata pu tata pu tata pu tata pu ta pata pu tata pu tata pu. Non posso andare avanti all'infinito. Tu pata pu ta pata tu ta pata pata pata pata pata pata pata pata pata pata pata pata pata pata pata pata pata pata pata pata pata pata pata pata pata pata pata pata pata pata pata pata pata pata pata pata pata pata pata pata pata pata pata pata pata pata pata pata pata pata pata pata pata pata pata. Ho i jeans stretti, ogni volta che faccio così mi si schiaccia un pallone, è un disastro. Non so come dirtelo, mi spiace non essere una bella figa. Peccato. Comunque, dimostrazione perfetta, penso che il nonno abbia capito che cosa sia il twerk. Ok? Mi spiace a tutti che io sia una bella figa. Ma... no, non ha capito, perfetto. Possiamo anche andare avanti, tanto non capirà comunque. Va bene. Posso dire che è uno dei momenti più belli. Guardate la confusione, ci capisci niente. Vale tutto. Okay. Volete salire? Salite, rubate, fate quello che volete. Ok. Ma dispiace a tutti, ma soprattutto dispiace a me. Dai. Bene. Un grande applauso a Nemo. Bene, dopo questa dimostrazione pratica, ho dimenticato il pezzo. No. Faccio questo effetto. Sì. Allora, si parlava di tu vuoi andare dopo una festa single? Non l'ho dimenticato sul serio, almeno per adesso. No, ma sai che non mi fido io, quindi lo so, vero, te lo ricordo. Vero, vero. No, comunque, volevo portarci anche il nonno al single party, solo che c'è un problema. Io non voglio concorrenza e il nonno è un ex monaco. Lui sa benissimo come rimorchiare a differenza mia. Quindi, porca miseria, lui da giovane scopava che era... cioè, nonna conferma, nonna lo sa benissimo. Nonna... La signora ha annuito diverse volte. Sì, sì, sì, conferma. E quindi... poi non solo, e a conferma di questo, lui dopo aver fatto il monaco, il suo primo lavoro è stato l'agente di borsa. Cioè lui è passato dal monastero di Monte Oliveto in Toscana ai night club di Milano. E io mi chiedevo come cazzo fosse possibile, ma poi ho raggiunto la soluzione. Chi meglio di un uomo di chiesa per riuscire a convincerti di qualcosa di inesistente, che può essere appunto come una divinità o come può essere un investimento su qualche azienda. No, ma è sicuro, eh? È sicuro, 100% garantito. Lo so, nonno, che l'hai fatto qualche volta, lo so. Quanti milanesi hai... no, quanti brianzoli hai fregato? Dai. Ride, non fa nomi. No, perché lui mi ha raccontato che effettivamente da Milano ha portato i suoi colleghi in Brianza perché aveva scoperto che effettivamente in Brianza c'erano i soldi veri, solo che li tenevano nel conto in banca e non li spendevano mai. E quindi... ha portato i suoi colleghi a spolpare i brianzoli tirchi. Poi i suoi colleghi scappavano tipo in Svizzera o alle Cayman con i soldi dei poveri brianzoli. Che bella famiglia che siete. Vero. Ho imparato da qualcuno, no? Vabbè, dai. Ci risparmiamo perlomeno lo stereotipo della pedofilia. E invece no? No. È qui che sale il livello. E adesso ci arriviamo. Perché prima di giustamente di conoscere mia nonna e prima di lasciare il monastero, che cosa ha fatto? si è iscritto a un, a un corso per educatori. Quindi si è iscritto all'ESAE, all'ESAE Milano, un corso per educatori. E quindi, insomma, non poteva fare a meno, insomma, di bambini anche lì. Non, la mela non cade... Io te l'ho detto di prepararti, nonno, che avrei sparato a zero. Te l'ho detto. Probabilmente mi disconoscerà, non mi farà più entrare in casa. Mi aspetterà col mitra. Ah, eccolo, mi sta già facendo le corna. E non è la mia tipa. Wow. Comunque ed è lì che ha conosciuto, in questa scuola educatori ha conosciuto mia nonna, dopo che aveva mollato tutto e aveva lasciato il monastero perché lo volevano mandare a Roma e fare prete. Lui giustamente non aveva alcuna intenzione di dire messa, voleva semplicemente starsene in monastero a spararsi pippe e a pregare e a lavorare. Sto scherzando, nonno, lo so che il tuo obiettivo era ora e labora, però insomma labora, vabbè, no. Poi diciamo la verità che in quel monastero, cioè erano gli anni 60, però dai racconti, cioè, sembrava uscito veramente da un fumetto giapponese hentai, perché veramente tra gente che spia da un foro della doccia, che spiava mio nonno, oppure gente che si fa trovare nuda nel suo letto dopo che aveva finito la doccia, ci mancavano solo i tentacoli e siamo veramente in un fumetto hentai. Bambini c'erano, quindi anche lì l'ambiente perfetto. C'era qualcuno che si masturbava con un polpo, tipo qualcuno che usava tentacoli di polpo per masturbarsi. Il nonno fa sì. Annuisce, conferma. Che bella famiglia. Cioè... No, ma che bella la chiesa. Esperienza da provare. E quindi niente. Ha mollato tutto e ha conosciuto mia nonna, che aveva 17 anni, e lui ne aveva 28, perché hanno 11 anni di differenza. Quindi si capisce la mia passione per le minorenni, da qualcuno avrò preso. Che poi, all'epoca la maggiore età era 21 anni, non era 18, quindi era tanto minorenne. Però mia nonna è del 53. Tra l'altro compie anche gli anni oggi, quindi fatele gli auguri. E tu lo dici così. Grande augurio. Vuole salire anche lei, signora? Vuole dire 5 minuti anche lei? Beh, tanti auguri, nonna. Complimenti. Questo è il mio regalo. Una bella denuncia per tuo marito, così almeno non devi sbolognarlo, da lì non te lo restituisco, forse, credo, non so, probabilmente romperà così tanto il cazzo anche ai secondini che te lo rispediscono comunque a casa, gli fanno fare i domiciliari, pur di non stare in prigione, dopo aver detto ai cuochi che la bistecca andava lessata e poi fritta, probabilmente lo mandano ai domiciliari decisamente. Questa cosa è una sorta di battuta interna di famiglia che conosciamo. Allora, si è perso un po' il momento, la gente ha cominciato a parlare. Va bene. Mandali a fare in culo. Sì. Mandali a fare in culo. Ma fa culo così. Allora, perché dovete sapere che io ho un ego mostruoso e odio quando non mi ascoltano. Quindi. Occhio che si incastra, ragazzi. Io non lo farò. Oh! No, non mi sento. Oh! Allora anche là sul bancone. È stato d'impatto, è stato. niente. Secondo me potresti, io non so come la pensi tu, ma alle volte una bestemmia tendenzialmente funziona. No, dai. Questa, no, no, infatti ho detto, la... non so come la pensi. Ci, la... no, ci sono i nonni, la... anche se il nonno con sto passato. Anche se il nonno con sto passato una bestemmia l'avrà tirata. Beh, nel senso, era in Toscana, ne avrà viste piovere praticamente di bestemmie. C'era qualche monaco che praticamente lo usava come intercalare la bestemmia, quindi... così. Era l'abate generale, vero? O no? O forse era il cuoco? Più da cuoco la bestemmia. No, però mi sa... stava annuendo con l'abate generale, quindi era lui che bestemmiava. Eh? Ma, ah no, il cuoco, confermo no, il cuoco. Cuoco ci... Il cuoco, sì. Praticamente cucinava per tutti tirando porconi. Piatti saporiti. Sì, molto. Bene, e quindi è lì che ha conosciuto mia nonna. E... però a pensarci, era il 70, perché aveva 17 anni, mia nonna del 53... E quindi a pensarci, nel 70, a 17 anni, come minimo, cioè dovevi essere sposata e avere due figli, cioè nel senso a quell'età, cioè a quell'epoca, cioè in pratica eri minorenne ma allo stesso tempo eri già gallina vecchia che faceva bombo. Quindi praticamente ha unito i due target preferiti della chiesa, quindi bambini e anziani, e li ha messi insieme, quindi... Perfetto nonno, hai fatto proprio jackpot. Dai, fatemi un applauso. E ora, dovete sapere che invece mia nonna ha fatto poi tirocinio in un brefotrofio e non è stata assunta perché troppo puttana. Allora, che motivazione bislacca. Allora, detto così, sembra brutto, ma dobbiamo capire che cosa era considerato puttana all'epoca. Gli hanno fatto letteralmente un test. Perché c'è uno che sta morendo. Sì. Gli hanno fatto letteralmente un test, nel senso il prete che si occupava, che era un pezzo grosso, non so perché fosse un pezzo grosso in un brefotropio di bambini, ma insomma era un pezzo grosso, e quindi gli ha fatto letteralmente un test. Stava mettendo a letto i bambini, il prete è entrato e praticamente mentre erano seduti e lei stava ancora cioè i bambini si stavano addormentando, gli ha praticamente toccato la gamba e stava salendo, e lei, come gli ha insegnato suo padre, aveva rispetto per i bianchi. In questo caso non mi intendo la razza, ma intendo i capelli bianchi, cioè nel senso aveva rispetto per gli anziani, e quindi non ha detto nulla, si è anche un po' bloccata e non ha detto nulla. Questo è stato ricevuto come assenso, e quindi il prete si è segnato nel suo taccuino: allora, questa è una baldracca invereconda, non dobbiamo assumerla, però possiamo mandarle, possiamo tenerla in conto come perpetua. Vi prego, capite la battuta, la perpetua, dai, non so cosa dire, ma in generale, no, però che poi, bello che tua nonna poi si è trovata con tuo nonno. Adesso ci arriviamo sì. Perché stiamo andando a 100 all'ora, sì, no no, ma c'è il percorso narrativo, il viaggio dell'eroe Omero, e poi c'è, sì. C'è per forza la chiusa qua, esatto. Oh. quindi io mi immagino poi il prete che abbia fatto uscire la donna e abbia detto: dai su, esca, che adesso i bambini devono giocare con il loro giocattolo preferito. Oh! Questa... è il cazzo se non lo avete. Scusa, questa non te l'avevo. Questa non te l'avevo detto. Il resto era Ah no, il resto è racconto realistico, mi sa che mia nonna non se l'aspettava che tirassi fuori questa storia, è lì annichilita. Ma io ho una domanda, ma dopo questa chiusa qua, ne hai una più forte? Beh, il fatto è che poi si sono messi assieme, e com'è possibile? Io mi chiedo, cioè, lei che, insomma, una donna che proveniva da una famiglia piuttosto bigotta, mi chiedo come facesse a essere considerata puttana. Poi, insomma, si è sposata con un ex monaco di 11 anni più grande e suo padre aveva 21 anni in più rispetto a sua madre. La sua prima cotta è stato un amico di suo padre, quindi in pratica nonna... in inglese si direbbe nonna daddy issues, o meglio in italiano nonna con il complesso di Elettra. Quindi ragazzi, cultura, io poi non oso immaginare giochi del tipo: ma allora Lucio, ce l'hai il cilicio? No, perché io ho molto peccato padre. Io posso immaginare, dai, lo so che ce l'hai, quando insomma ti punisci da solo, ho bisogno di essere punita io. Probabilmente il nonno starà, all'inizio voleva scappare e dire per favore Dio mi aiuti, poi deve essersi preso bene, ha detto: ma sai che non è male. Sì, ti perdono i tuoi peccati nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E con questa chiusa direi che io sparisco dalla vita. Non dire così, non dire che la felicità che mi hai dato stasera, cioè la gioia a me. Che ti... Beh, sei, cos'è la quarta? Non hai no, nonni, no, no, no, i tuoi nonni, vabbè, grazie al cazzo, con la vita che hanno fatto ci pensavano prima di far tutta quella merda. No. Cioè, mica ma colpa no. tua, sono loro che l'hanno no. fatta, tu racconti e basta, è mica colpa tua. Però è la quinta volta che vieni qua e mi hai dato un grande gioia stasera. Bei racconti, bell'albero genealogico. Bravo Romualdo. Avevo lo stimolo giusto. Romualdo, fateglielo un altro applauso, fateglielo. Romualdo, qua il microfono. Sì. No, viva l'Alcatraz, chi è che ha detto viva l'Alcatraz? Posso, una cosa, scusate, prima di andare avanti, scusa. Signora, come si chiama, scusi? Il suo nome, come si chiama? Io come mi chiamo? Sì. Mi chiamo Leonì. Perché... Leonì? Ok, tieni un attimo. No, la figura della nipote, dico. Ci mancherebbe, no, che vedrà che non si preoccupi. È successo veramente quello Sì, eh? Vabbè. Oh, e sulle ali dell'entusiasmo possiamo andare. Andiamo avanti con la serata, direi. Ci siete? Siete carichi? Ci siete ancora? Fatevi sentire! Di più non mi basta! Sgolatevi come se fossimo all'Alcatraz! Alla serata dei nubili, dai! Allora, vado a presentare il prossimo comico di questa sera. Fatevi sentire, è un bravissimo monologhista, signore e signori, Federico Comella! Usi quello più bello, bravo. Mi ha praticamente segnato perché io faccio cagare, quindi tante aspettative per niente. Comunque, allora, io sono Federico Comella, sono di Milano, nato a Milano, e questa sera parlo dell'effetto farfalla. Chi di voi uomini, alzate la mano, conosce l'effetto farfalla? Vedo che ti è già partita la salivazione, vedo degli occhi brillare, ma non parlo di quella farfalla. Non parlo di quello stato confusionale che per noi uomini inizia intorno ai 14 anni e solitamente finisce intorno ai mai. Parlo di quella teoria per cui un battito d'ali di farfalla a Tokyo può provocare un uragano a Bitonto. Infatti non tutti sanno che 2 settimane fa c'è stato un uragano a Bitonto. Greta Thunberg ha twittato: è causa del surriscaldamento globale. Qualcuno per favore avvisi Greta Thunberg che la colpa è tutta di quella cazzo di farfalla a Tokyo. Poi ognuno può pensarla come vuole, se è stato il surriscaldamento globale, se è stato l'effetto farfalla, comunque sia Bitonto ne è uscita migliorata. Sia chiaro, ovviamente sto scherzando, io non ho nulla contro gli abitanti di Bitonto, anzi ho un sacco di amici che spacciano. Ma torniamo all'effetto farfalla, siamo d'accordo che sia una teoria molto affascinante e sia ingiusto incolpare un insetto così piccolo. Ma se il battito d'ali di farfalla può provocare un uragano, cosa dobbiamo aspettarci dalla scoreggia di una mucca, dal grugnito di un maiale, da un concerto di 2 giorni a San Siro di Sfera Ebbasta? È molto più facile accettare che tutta questa distruzione sia stata causata da un grosso animale, e ovviamente sto parlando di Sfera Ebbasta, rispetto che da un insetto che passa tutta la sua vita chiuso in casa e non appena esce muore. Praticamente le farfalle sono gli hikikomori del mondo animale. Ciao. Hikikomori, per chi non lo sapesse, è un termine nato in Giappone per descrivere tutte quelle persone che a causa dell'ansia sociale non escono mai di casa. Ragazzi, al cazzo non esci mai di casa se abiti in Giappone, anch'io avrei l'ansia sociale se fossi in Giappone. Ce l'avete presente in Giappone? In Giappone i manager, quando sbagliano, praticano il suicidio rituale come i samurai. Le persone dormono in case di 1 metro per 2, hanno queste strane fantasie sessuali sui polipi e poi c'è sta cosa che in giro per Tokyo è pieno di ste cazzo di farfalle che sbattono le ali. Comunque quella del battito d'ali in realtà non è una cazzata, è la semplificazione di un concetto matematico che dice che piccole variazioni iniziali possono generare grandi trasformazioni nella struttura finale di un sistema. Chiaro? Tu stai ancora pensando alla figa? Allora ripeto, piccole variazioni, grandi mutamenti. Farfalla a Tokyo, uragano a Bitonto. Da non confondere con la superstizione, perché non è che se tu davanti al televisore guardando la Champions League gridi segna, segna, e quello fa gol, e allora il gol è merito tuo. Quello ovviamente è merito di un colibrì che è starnutito in Massachusetts. Che poi io me li immagino sti animali. Me l'immagino sta farfalla, quanto cazzo deve sentirsi gasata, quanto si sentirà importante, se ne andrà in giro flexando: oh raga, io se sbatto le ali causo gli uragani. E lì a fianco c'è un pipistrello cinese che la guarda dall'alto in basso e le dice: ehi sorella, stai a guardare. Comunque, a parte gli scherzi, la teoria del battito in realtà si chiama teoria del caos, vi ricordate? Era la teoria che sosteneva lo scienziato rock and roll in Jurassic Park. Che poi, a proposito di dinosauri, ma se la plastica deriva dal petrolio e il petrolio deriva dai fossili di dinosauro, i dinosauri giocattolo tecnicamente sono fatti da dinosauri veri. Vabbè, questa era una cazzata. Però, cazzate a parte, è incredibile pensare come delle azioni così piccole possono influire così tanto su ciò che accade dall'altra parte del mondo. Io infatti uso spesso la cosa a mio vantaggio. Quando mi gratto i coglioni e la mia ragazza mi dice Fede, io le rispondo: eh no signorina, guarda che io sto risolvendo la questione israelo-palestinese. Anzi, ci sarebbe bisogno di un aiuto internazionale, non è che vuoi succhiarmelo? Comunque, a parte gli scherzi, pensate se l'effetto farfalla fosse davvero reale, se i matematici avessero ragione. A questo punto, che ne sappiamo? Magari il modo migliore per aiutare i bambini in Africa non è fare una donazione, ma è farsi le pippe. Cosa che se fosse vera significherebbe che io da solo ho salvato il Botswana. E pensate se l'unico modo per aiutare i bambini in Africa fosse mettere i like alle fighe su Instagram. Cosa che se fosse vera significherebbe che, vabbè, forse sto esagerando, farei meglio a tornare a ciò che so fare meglio: le pippe. Anche perché alla fine questo pezzo non è neanche merito mio, è stata solo una farfalla. Grazie. Ma che fine ha fatto Andrea Fadenti? Scusate. Vai, vai, vai. È al balcone che beve. Ma Andrea Fadenti, vabbè. Niente, fate finta che io sia Andrea Fadenti, ho i capelli lunghi e ho scelto una persona a caso per fare. Ma tranquillo, non ti preoccupare. Fai come se fosse la tua serata, tranquillo. Come se fosse. Sì, sì, ma non ti preoccupare, tanto c'è. Tocca l'ultimo, no? No, no, abbiamo ancora due o tre o quattro. Allora, mi ricordo. Allora, ne abbiamo due. Ero in bagno, scusate. Ne abbiamo ancora tre o quattro, poi finisce il primo tempo. Esatto. Facciamo fate 10 la pipì, minuti di bevete, pausa. Adesso è il classico momento di stanca. Esatto, classico e momento. E per fortuna noi abbiamo il più matto di tutti che si esibisce adesso. Non so chi ci sia adesso. Non lo so io, è un matto vero questo, ragazzi. Sì, eh? Matto vero, non lo vedo perché non ho gli occhiali, ma sapeva che doveva esserci lui. Io provo a chiamarlo, vedi che arriva, che è matto vero. Ma signore e signori, fate un cazzo di grande applauso a Manuele Laghi. Manuele! Grazie, ero andato al cesso. Che cazzo, mi scappava. Oh, come state? Oh madonna, mi sono dimenticato tutto. Cosa vi volevo dire? Beh, innanzitutto, questa è una serata, secondo voi, più di stand up o più di cabaret? Voi sapete la differenza tra stand up e cabaret? Allora, io non l'ho mai capita, però ho un mio metodo. Se sento dire suocera, è cabaret. Se sento dire sborra, è stand up. Ma se sento dire sborra sulla suocera, è teatro d'avanguardia. Allora, sì, non dovete preoccuparvi, qualcuno di voi già mi conosce. Non sono la variante Kraken arrivata dalla Cina per rinchiudervi nel lockdown. Tra l'altro, ho scoperto, io sono una banana. Cioè, sembro asiatico, ma sono europeo. Giallo fuori, ma bianco dentro. Tra l'altro, a proposito del lockdown, qualcuno di voi ha cambiato lavoro durante la pandemia o dopo? Vedi, in tanti. Cosa fai adesso, oltre che il coglione? Allora, tu pensa che io sono passato dal fare diversi lavoretti così a anche, oltre a fare il comico, faccio anche l'insegnante, che è una cosa molto simile a fare il comico, no? Perché alla fine stai in piedi davanti a della gente seduta dicendo cazzate, sperando che gli altri ti ascoltino. L'unica differenza è che quando fai l'insegnante, cioè che quando fai il comico, la gente speri di farla ridere, ma quando fai l'insegnante speri di farla piangere. Soprattutto se come me sei un insegnante di matematica, perché insegnare matematica è entrare nel lato oscuro della forza, è essere il villain finalmente. Sì, sei come Voldemort, ma col naso, cazzo. L'insegnante di matematica è un negromante che ti può congelare con tre parole. Verifica sorpresa. Io quando correggo i compiti ancora con la penna rossa, io finisco che ho le mani insanguinate, che mi sento come Lady Macbeth quando saltella gioiosa tra il sangue dei suoi parenti morti. La storia non è andata proprio così, ma io insegno matematica, non letteratura inglese. Che cazzo me ne frega. C'è un mio studente, non uno particolarmente, diciamo, sveglio, è convinto che 1 diviso 1 faccia 0. Quanto fa 1 diviso 1? Ecco, questa persona è arrivata da me e mi ha detto: ah, io volevo fare ingegneria all'università. Io gli ho riso in faccia. Pensavo stesse scherzando, poi mi sono accorto che era in classe, era l'unico che non rideva, e anzi era un po' triste, e allora ho cercato di, insomma, di parlargli, però non ce l'ho fatta, gli ho riso in faccia di nuovo. Lo so, è brutto, voi starete pensando che io rovino la vita ai ragazzi, ma io insegno al serale. E se sei al serale, la vita te la sei già rovinata da solo. soprattutto se sei un insegnante. Io ho iniziato da pochi anni, proprio mentre c'era ancora tutta la storia della pandemia, eccetera. E il primo giorno di scuola, quando sono arrivato, mi hanno chiesto: ah, lei è qui per l'incontro dei genitori, è una mamma. Ora, immagino che nessuno di voi avrà pensato: ma che bel maschione, quando sono salito sul palco. Però da qui a scambiarmi per una donna sarà difficile. Però vi ricordo che fino a qualche tempo fa c'erano ancora queste. Allora, un attimo. Tanto mi sentite lo stesso? Sì. Perché se io metto la mascherina e sciolgo i capelli, è subito centro massaggi cinese. Tra l'altro, sono stato spesso scambiato per una ragazza mentre c'era il periodo dove bisognava sempre portare le mascherine. Avevo fatto una serata tipo questa in un posto dalle parti di Piazzale Cuoco e quando era finita, era tipo mezzanotte, dovevo andare a prendere il bus. Classica scena: esci, vedi l'autobus, inizi a correre, l'autobus parte e tu tiri una bella bestemmia e l'autobus si ferma. Perché bestemmiare funziona. Io salgo sull'autobus, ringrazio, e sono da solo sull'autobus, no? E l'autista fa: ah, ma cosa ci fai in giro a quest'ora? Ah, sono andato a fare, stavo facendo uno spettacolo. Ah, quindi sei un'attrice. Da dove vieni? Come ti chiami? Dove stai andando? Abiti da sola? Io faccio il comico, mi chiamo Emanuele, vivo in Viale Monza. A quel punto si è fermato e ha detto che doveva tornare al deposito. Che poi io due colpi per un passaggio a casa glieli davo anche, cioè. Non si dice mica di no. Anche perché a quel punto tu ti trovi di notte in giro per Milano alla mercé dei maniaci, anche se ormai avevo capito come evitarli, perché quando arrivava il maniaco con l'impermeabile, oh, oh, oh. Ma questi sono i miei amici, ma questa non è stata l'unica volta che mi hanno scambiato per una ragazza. Prima che avessi questa peluria informe in faccia, quando ero un bambino, avevo 8 anni, sono stato operato di appendicite. L'infermiera era così convinta che io fossi una bambina che mi ha scritto nel modulo Manuela Laghi e mi ha messo nel reparto femminile con 4 signore simpaticissime in menopausa che mi hanno insegnato tutto sulla menopausa. Avevo 8 anni, non avevo mai visto una vagina, ma sapevo tutto sul vaginismo. A 12 anni ho cercato, volevo sentirmi più uomo, più maschile, e mi sono rasato a zero. La gente pensava fossi lesbica. Poi quando ero più grande, 20-25 anni, sono andato alla festa di laurea di una mia amica e praticamente c'è stato un tipo che si è avvicinato e ha iniziato a provarci con me. E io sono di apertissime vedute, soprattutto se mi offri da bere, sono proprio la tua troia. Ma quando ha capito che ero un uomo, ha iniziato a provarci con la mia amica, con cui ci volevo provare io, ed è andato via con lei. Cioè, sono stato scaricato 2 volte da 2 sessi diversi la stessa sera. Cioè, sono stato prima l'amica brutta con cui provarci per rompere il ghiaccio e poi il terzo incomodo. Io mi immaginavo già una bella orgia orcabaleno, ma che cazzo dico? Una bella orgia arcobaleno. E invece sono tornata a casa a farmi le seghe piangendo. Le seghe piangendo. Poi, allora, non so se avete mai sentito parlare del villaggio di Natale, quello che c'è stato qua all'ippodromo. Quello che ci è andato anche Selvaggia Lucarella, Io, vabbè, se mi fate esibire alle 11 e tre quarti, io bevo, cioè. Sono cazzi vostri. Selvaggia Lucarelli all'ippodromo, no? Che l'aveva distrutto, un posto veramente di merda, vabbè, ma questo è un altro pezzo. Io ero vestito da elfo, immaginatemi vestito da elfo, tutto truccato, con le orecchie, carino. E la gente, a questa distanza, c'erano le coppie che parlavano. Ma secondo te, quello è un uomo o una donna? Ma non lo so, guarda il naso, secondo me è un uomo. No, no, guardagli le mani, secondo me è una donna. Io, beh, guardatemi il cazzo, cioè... Quando ho detto così, ah beh, dalla voce è sicuramente una ragazza. Allora, questa cosa che mi hanno chiesto, se ogni tanto capita, gente ubriaca, gente a caso, ma è un uomo o una donna, ma se è un ragazzo o una ragazza. E l'ultima volta che è successo, io ho detto, ho risposto così: cosa te ne frega se sono un uomo o una donna? Cosa te ne frega di che cosa ho lì sotto? Ti può interessare solo in un caso, se vuoi venire a letto con me, se vuoi scopare con me. Ma se già sei interessato così tanto a me da vedere lì sotto, che cosa te ne frega se sono un uomo o una donna? È il 2023! Scopa con chi ti pare! No? Ecco! Questa però non è stata la reazione del consiglio di amministrazione scolastico, che ha detto che non posso dire queste cose ai bambini di 8 anni, soprattutto se sono presenti i genitori. Ed è per quello che adesso insegno al serale. Grazie mille, io sono Emanuele Laghi. Cercatemi su internet, do anche ripetizioni di matematica, 25 euro l'ora, 50 con l'happy ending. Grazie. Emanuele Laghi. Abbiamo tenuto alla fine il matto vero. Abbiamo gli ultimi due e abbiamo preso, tenuti in scaletta, i due migliori. Davvero non sto scherzando, non sono matti, forse uno sì, ma non l'ho ancora capito. Quindi siamo davvero in dirittura finale, non sa chi è il penultimo, ma io lo chiamo lo stesso, spero sia qua. È con grande piacere che chiamo sul palco, se è presente, Antonello Taurino. Antonello Taurino in cassa 2, un grande applauso! E poi il sequestro di persona finisce. Grazie, buonasera, non c'entro niente in questo laboratorio, non, cioè, è bello Andrea sul laboratorio, ma non c'entro niente, non ho problemi io. E non è... Cioè, ho solo un sacco di... Ciao, come va? Buonasera. Un applauso così di default per l'ultimo. L'ultimo applauso che farei. Sono Antonello Taurino, sono attore, cantante, formatore, docente pure io. Insomma, tutte cose assolutamente inconsistenti proprio. In confronto a me, Don Chisciotte è uno pratico. Cioè, per dire, questa è la più intelligente. Vabbè, io come stavo... puntavo tantissimo su questo. Io sono del Salento, chi è, qualcuno è del sud, della Puglia? Bene, se, bello, nel Caprese si fa sta cosa che no, me ne è fatto un cazzo, però è solo per dire così, per andare avanti, no? Così, no? No, però del Salento, se qualcuno c'è stato, è bello che si è famoso per sta cosa della pizzica, però io odio, che non ho mai capito la differenza tra, una, insomma, tra la pizzica e un attacco di epilessia, cioè proprio... una cosa che odio. E sono finalmente, sono orgoglioso delle nostre fiere tradizioni criminali. Non si scherza mai della Camorra, invece no, la quarta mafia, la Sacra Corona Unita, io sto cercando di farla conoscere, ha fatto un sacco di cose, cioè il mio quartiere era malfamato, così malfamato che mia madre mi raccomandava di non prendere droga dagli sconosciuti, mi fregavano e mi davano le caramelle, cioè per dire... Il quartiere, che noi abbiamo inventato l'ecomafia, la mafia che manda i pizzini su carta riciclata, che fa saltare i negozi con esplosivo al plastico biodegradabile, famoso racket sostenibile, detto anche pizzo a chilometro zero, no? No, Greta Thunberg, li vogliamo bene. Allora, no, anch'io insegno come Emanuele, come prima, col lockdown è stato un problema, so, abbiamo veramente sofferto, siamo la classe docente più anziana al mondo, insegnanti di latino madrelingua, è stato maestre d'asilo di 68 anni lasciate sole a inseguire 20 pischielli di 3, per cui io dico almeno metti la legge che l'età del docente non deve superare la somma dell'età degli alunni, almeno questo. Io sono precario, così precario che il mio contratto è scritto a matita a volte, no? Insomma, durante la DAD abbiamo dovuto spiegare che DAD è un acronimo, vuol dire didattica a distanza, è un acronimo, non è un inglesismo, didattica a distanza, non vuol dire che i compiti te li deve fare tuo padre, questo è... Perché poi io sui compiti avevo messo una regola ferrea, ci si può giustificare, però al massimo 3 decessi per ogni nonna, non... No, perché sennò poi queste nonne zombie che saltano via. Bene, io no, volevo provare un pezzo, ma lo provo? No, volevo provare una barzelletta. Barzelletta o pezzo impegnato? Che ride? Eh? Allora facciamo, racconto la barzelletta e il pezzo incrociati, cioè, no, come in Maestro e Margherita, un po' di barzelletta, un po' di pezzo, poi ve li unite, è un momento di esperimento. Allora c'è questo ragazzo, no, no, l'ho sentito in tram, non è che, però mi faceva ridere di questo che va dal medico. Dal medico, perché praticamente il, no, il, insomma, il medico con le carte, il medico guarda tutte le carte, a un certo punto, no, gli dico, scusi, ma lei, il medico, no, ma lei deve smettere di masturbarsi. E perché? Perché le sto parlando. E a me piaceva, mi piaceva tantissimo, so, questa cosa. È bella questa, eh? Beh, insomma. No, allora, io la cosa fantastica di quando insegni è che ce l'ho tutti in classe, c'ho l'ipovedente, l'iperattivo, il cardiopatico, il dislessico, lo straniero, il dislessico straniero, che quindi parla bene, che mischia, no? Fa il giro. Io ce l'ho tutti, io ho un alunno Rom, Birovic, un alunno Rom, Birovic, che cambia posto ogni giorno, bravissimo in geografia, perché i posti li ha visti lui, non è che, cioè, no, però c'è un posto problema che lui ti elemosina i voti, no? Lui se ne viene proprio col cartello, dipende dalla sua cultura, se ne viene col cartello e dice: "Prof, metti 1,7, io senza penna, senza matita, non ce l'ho libro, non ce l'ho quaderno". No, non ti metto 7 perché tu ieri non hai fatto i compiti a casa. Perché non hai fatto i compiti a casa? E non ce l'ho a casa, giustamente, no? Grazie. Poi io c'ho chi c'ho? Aspetta. C'ho Abdullah Lambagi, che mi è arrivato l'anno scorso in barcone da Lampedusa, dall'Egitto, mi è arrivato a Lampedusa, quindi non parla italiano, lo parla così, male, no? Senza i verbi, senza congiuntivo, si è perfettamente integrato, diciamo, no? Insomma, e io con tutti questi, insomma, scuola è una parolona, cioè per me già è bello da educatore quando i ragazzi si correggono, no? È bello che si correggono e ti dicono... Cioè, perché non è che fai scuola, però per esempio io c'avevo Zuretti è un misto tra Franti e Hannibal Lecter, vedete, so 3 anni che lo promuoviamo perché si è fatto tardi praticamente, no? Perché con i consigli, no, di classe di 35 arriva lui, Zuretti promosso, no? Cioè, so 3 anni. Sì, perché nella DAD abbiamo messo sta regola che non si possono comunicare le bocciature in maniera traumatica, no? Cazzo fai. Poi noi con la psicologa siamo stati lì a pensare un modo, no? Poi a Zuretti gli abbiamo detto: "Zuretti, sei fortunato, i libri di quest'anno tornano buoni anche l'anno prossimo". E a parte che poi per lui non li usa mai, no? Mai. Però Zuretti, a me il cuore mi si è scaldato quando Zuretti, perché è bello da educatore quando, no? Quando loro praticamente si cambiano, no? E allora Zuretti quel giorno che mi ha guardato e mi ha detto: "Prof, che cazzo vuoi?" Ho sbagliato. "Prof, che cazzo vuole?" Bene, cioè, aveva imparato di dare del lei. Poi io perché ho iniziato a fare... Perché era una svolta, il docente, era una svolta della mia vita. Momento in cui, insomma, la mia ragazza mi ha lasciato, perché fa sempre ridere dire che la ragazza ti lascia, anche se era vero. La mia era una ragazza del sud, quindi sono venuto a Milano e ho iniziato a fare il docente. Pensa se fossi con lei, no? Non avrei mai iniziato a fare questa cosa, perché lei era fantastica, perché lei con la stessa frase riusciva a rendermi contemporaneamente, con la stessa frase, felicissimo e tristissimo, no? Caro, lo sai che di tutti i tuoi amici tu sei quello che ce l'ha più grosso? No. gelo mio. C'è una ragazza che applaude così da sola, nel clima. No, poi quando veramente io sono venuto qua, stava nascendo questa, un po' questa cosa tra i miei amici, no? Ah, Taurino non tromba, Taurino non ogni morte di Papa, Taurino non tromba ogni concilio ecumenico. Sono andato un po' la cosa proprio un po' così, no? Tant'è che io poi, sapete la gag che fanno i comici, che quando arrivano sul palco per far vedere che si masturbano tanto, no? Vengono, la gag classica dei comici, con il giornalino porno sul palco, che però le pagine non si girano perché sono attaccate, no? Quella gag lì fanno un po' tutti. Io quella stessa gag la facevo con laptop, per dire, no? Quanto era bella la cosa. Quindi niente, io boh, penso che andrò a bere adesso con... No, però volevo raccontare quello che è successo, cioè, tornando alla scuola, perché davvero dobbiamo essere in più docenti, perché abbiamo queste classi di 45 persone e non si riesce a fare. Io poi c'è il mio quartiere malfamato, cioè il primo giorno ho letto l'appello Aymer, Alambaji, Bainakal, Banes, Berani, Birovic, Chen, Liduan, Draikier, Denis, cioè, perché l'appello sembrava la formazione dell'Inter, no? Cioè, il primo italiano stava undicesimo, Esposito Cosimino, tra l'altro, cioè, manco a dire. Che poi lui è il cardiopatico grave, lui, no? Cioè, è talmente cardiopatico grave che io quando spiego storia mi piglia male, che siccome è cardiopatico, e io storia gliela metto giù liscia, senza traumi. Ah, che la preside un giorno è venuta e mi ha fatto: scusi, ma lei nella lezione sulla Seconda Guerra Mondiale ha raccontato che ci sono stati 50 milioni di morti? Ma lì è pazzo! Noi abbiamo Cosimino che è cardiopatico, quello li prende male, lei deve edulcorare. Come? Sì, lei dica che questi 50 milioni si sono persi. Sì, a Hiroshima hanno esagerato coi petardi, non so, c'è la Santa Inquisizione dei cardinali che si sono fatti prendere la mano dal barbecue, no? Cioè, so, comunque il problema con tutti questi casi è quando comincia a spiegare letteratura i promessi sposi, perché non è che li puoi fare, cioè non è che se tu li leggi quel ramo del lago appena cominci a leggere le loro palle emigrano in Svizzera, no? E qui tu gli devi dire vabbè, la maggioranza sono arabi, allora cominci a dire quel ramo dell'oasi gli fai la versione loro, quel ramo dell'oasi di Damasco che volge verso la Mecca tra due fila non interrotte di palme fin quasi a restringersi per una striscia chiamata Gaza. Per una di queste stradicciole tornava alla sua moschea un imam leggicchiando alcune sure del Corano, quando a un certo punto a un bivio incontra due predoni sui loro cammelli, no? E poi l'indiano dice: però indiano, però pure per me, vabbè, indiano, vabbè. Quel ramo del lago del fiume Gange che volse verso Calcutta tra due fila non interrotte di vacche sacre fin quasi restringersi in un tempio yoga chiamato Sai Baba. Per una di queste stradicciole tornava al suo ashram un sacerdote indù, uno bramino che a un certo punto a un bivio incontra i due marò. Poi l'africano, quel ramo del lago Tanganyika che volge verso Nairobi tra due filo non interrotte di ippopotami, viene quasi restringersi in un jambè quando nella savana alle fate del Kilimanjaro uno sciamano vatusso a un bivio incontra Xi Jinping e von der Leyen che dicono: siamo qui per aiutarvi a casa vostra, però ponzi po, tu faccia anche il cinese che dice: quel ramo del fiume giallo che volge verso Shanghai tra due fila non interrotte di involtini di primavera per quasi restringersi nella muraglia cinese. A un certo punto c'è un monaco buddista che un bivio incontra Jackie Chan che dice: what a coronavirus, e finisce lì. Poi a un certo punto poi c'è la versione per il dislessico, quel luco del remo di Moco che golpe a Demotì tra due figli. Basta, cioè per cui, perché dobbiamo avere meno alunni in classe. E allora io la cosa che, per chiudere questa cosa, siccome dal ministero non ci danno meno alunni in classe, allora dobbiamo risolverla noi. Come la si risolve? Come un docente, Emanuele Pezzo lo sapeva, meno alunni hai in classe meglio è. Il ministero non ci pensa, e allora se c'è qualcuno che insegna, fate quello che faccio io agli open day. Cioè, io all'open day sapete cosa sono, no? Sono che si presenta la scuola ai possibili genitori futuri, no? E allora io agli open day, per far iscrivere meno persone, meno alunni, li guardo con la patta aperta e dico: salve, io sarei quel prof di italiano, piacere di conobbervi, ci piacerebbe molto che iscrivete vostro figlio qui, che questa è la scuola più meglio del quartiere, i professori li più meglio preparati, poi la droga che si spaccia in cortile, quella... la prof di religione, no, soprattutto quella di matematica era d'accordo con noi, la matematica era d'accordo con noi col piano, no? Mi guardava i genitori e diceva: bene, in questo complesso abbiamo ben 3 laboratori di informatica, in quell'altro ne abbiamo 2, in tutto fa 3. No, che quando è passata la circolare col totale io non c'ero, per cui non... Però quello che veramente è stato quello che li ha convinti è il don di religione, pure lui faceva parte del piano, guardava i bambini e diceva: iscrivetevi qui, iscrivetevi qui. Grazie. Antonello Taurino. Siamo alla fine, c'è l'ultimo. Grazie per aver resistito così tanto. Ho visto degli sbadigli, qualcuno si è addormentato, ma ci sta. È un sequestro di persone che dura da 2 ore. Adesso chiamo l'ultimo, vi chiedo davvero l'ultimo sforzo, perché stiamo chiudendo con... una chicca che la trovate, non dico solo qua, ma la vedete in pochi posti. Quindi non lo vedo, ma io lo chiamo. Se ci sei, Stefano Campagnolo. Silenzio! Perché mi guardano? Buonasera. Nel senso che vi auguro di trascorrere una buona serata. Arrivederci. Stefano Campagnolo! Ci fai un bis? Bis! Mi hanno detto che devo durare 10 minuti. Ottimisti. Non aveva mai usato chiedermelo neanche la mia fidanzata. Ce la fai durare 10 minuti? Se ci guardiamo e basta. Vestiti però. Sì, anch'io, anche tu. Si fa spesso ironia sul fatto che l'uomo duri poco nei rapporti sessuali, no? Si sente spesso fare battute su questo tema. Però io ho trovato la soluzione. Cioè, non è quella di pensare a cose brutte quando si fa sesso. Annuisci, eh? La ragazza ti ha guardato e tu hai annuito. Vabbè, non lo diciamo a nessuno. Andiamo avanti. Io ho trovato la soluzione. Per posticipare l'orgasmo, la soluzione migliore è usare la terminologia scientifica. Noto un rigonfiamento nella tua zona, nel tuo pavimento pelvico. Sì, ho una forte vasodilatazione del mio corpo spugnoso, col quale vorrei occludere il tuo corpo cavernoso, o in alternativa anche il cavo orale, va bene. L'ultima volta mi hai occluso il padiglione auricolare, sono rimasta sorda per una settimana. Scusami, era sfuggito di mano l'organo copulatorio. Posso iniziare tastandosi... Porco Dio. Posso iniziare tastandoti il tessuto adiposo dell'apparato mammario? Beh, questo per dirvi che usare la terminologia scientifica è la maniera migliore per posticipare l'orgasmo. Pinocchio... non, era il re della menzogna, no? Pinocchio era il re della menzogna. Per forza. Cioè, è l'unico bambino nato da una sega. Pinocchio. È tutto un monologo su Pinocchio. Alla Carmelo Bene. Pinocchio non avrebbe mai potuto fare il vigile del fuoco. Diamo tempo ai più ritardati. Perché mentiva. La bambina al sesto piano. L'ho già presa. Io. Tranquillo. Pinocchio godeva a mentire, cioè quando mentiva gli si allungava il naso, però io funziono al contrario, quando mi si allunga mento. Ti amo. Pinocchio, basta dai Pinocchio, basta. Lo stupro? No, non so perché, nella mia mente Pinocchio si associa allo stupro, non so perché, però secondo me sono collegati. Sarà per tutto quel legno, non lo so, però si associa. Lo stupro è un argomento tabù, no? Però ci tengo a raccontarvi come ho conosciuto la mia fidanzata. Avevo avuto un blocco intestinale. C'è un fil rouge, garantisco. Figa, so anche il francese. Avevo avuto un blocco intestinale, insomma non cagavo. Francesismo, aspetta, un crampo alla chiappa. E dovevo stare a Milano per qualche giorno e avevo chiesto ospitalità a lei, non stavamo ancora insieme, no? No? Che cazzo ne so io, vabbè. Comunque non stavamo ancora insieme, ho chiesto ospitalità da lei e quando ero da lei andavo in bagno regolare, regolarissimo. Poi sono tornato a casa mia, a Cesena, e mi sono ribloccato di nuovo. Allora le ho mandato un messaggio, le ho scritto mi fai cagare. Lei è rimasta contenta e ci siamo fidanzati. Insomma ero a Cesena, non cagavo, mi sono dovuto fare un clistere da solo, no? Solo che perché non me la sentivo di chiederglielo a lei. Cioè, ti vuoi fidanzare con me? Sì, allora fammi un clistere. È brutto. Allora me lo sono fatto da solo, solo che non vedevo di dietro. No? Premevo sulla pompetta e non sentivo il liquido entrarmi dentro. Ve lo mimo, avete capito l'immagine? Non sentivo il liquido entrarmi dentro, mi ho controllato e me l'ero infilato con tutto il tappo. La cosa preoccupante è che non ho fatto nessuna fatica, cioè è entrato senza nessun problema. Avrei anche potuto chiederglielo a lei, perché la mia fidanzata non è una dai tipi particolarmente femminili, insomma, ha più muscoli di me, paga sempre lei, dice è convinta di avere il pisello, continua a dirmi ce l'ho anch'io, cioè, è solo più piccolo, riferendosi al clitoride. C'ho la cazza, dice. E per minacciarmi mi dice, guarda che ti inculo, eh. Vero, io star con lei ogni tanto mi sento gay. Il nomignolo che l'ho dato è Attilio. Quindi, pausa un attimo. Da solo Pinocchio. Dimmi una parola a caso. Una parola. Legno. Pinocchio. No, dimmi un'altra. Legno l'abbiamo già fatta. Sei italiana? Non ho capito un cazzo di quello che hai detto. Dimmi una parola a caso. Pensaci. Rosso. Firrouge. No, aspetta, dai, Pinocchio l'ho detto, la ragazza. Porca troia. Allora, avete fretta? Io vorrei dire che domenica questa sono a Zelliga a Milano e non so il monologo a memoria. Sono venuto qui per provare e non so, quasi quasi ti do il mic. No, dai, trovo qualcun altro. Andiamo avanti. Pinocchio. Dai, dopo Pinocchio. Sei arrivato ad Artiglio, l'ultima cosa che hai detto è Artiglio. Artiglio? Attilio. Attilio. Attilio. Attilio. No, il nomignolo della mia fidanzata Mario. O ma, no, Mario o Attilio. Ma c'è da ridere comunque, non è che te. Ciao a tutti. Stefano Campagnolo! Signori, avim finito. Grazie a tutti di essere stati qua. Ci sono delle buste sui vostri tavoli. Se per caso non avete pagato e vi siete divertiti, o se per caso avete pagato e vi siete divertiti, buttateci dentro delle monete che avete visto che disgraziati che abbiamo qua, e un euro a tutti fa sempre comodo. Ci rivediamo il 2 febbraio, se non sbaglio, e grazie a tutti, grazie a Nemo di aver presentato con me, grazie a tutti i comici che non richiamerò perché sono volti. Buona serata, grazie, grazie Alex Alge.